zio, o ti chiami i carabinieri. Hai sbagliato, mi devi una cena. Cazzo. Ho dovuto segnare, ma se te ne vai, fai. Vabbè. Sono per 15, sì. Sto arrivando, provo il servizio. No, mi sto spostando da un canale all'altro, qua, là. Per vedere un po'. E la sto rosma, c'è che si muove. Perché ci siamo presi tutta l'acqua, però abbiamo finito di gettare, ci siamo andati via pure. Vabbè, tra una cosa e l'altra poi siamo diventati che erano le 3:30, no, le 4:30, no, le 4. Ma va capa. Ci andava bene, andava bene. Via. E anche dove l'ha messo l'acqua? Attimino, vediamo un po'. Una merda questo tempo. Vabbè, guarda c'è sui B, guarda c'è, sentiamo. Su CB c'è quella robetta. Potrebbe comprare. Aspetta, guardo se c'è ancora. Una camera da vecchio ti devi comprare. Una camera da letto ti devi comprare. No, una camera da letto. Su base da la sarà due, vale sì. Non so, vale sì, vale 10, vale 5 me ne vado. Ah, cappa. Ma se le volte vuole pure via roba? Ma sto carica ancora? Ehi, tutta la notte la lascio. Alla cappa. No, la tua è sempre bella alla prima base. Non so, è nuova quella lì. Quella non è stata mai usata. Ah, paghissimo, È stata comprata, ma la moto non l'ho finita. Il carburatore te l'ha portato Alessio. Ma, Simone? No, non me l'ha portata, mi tocchino. Tu non l'hai buscato? Sono appannato, siccome devo prendere le carene, la bomboletta. Se appannavo allora glielo dico io. Ma che figlio di Maria Luisa non mi ha dato risposta. Sicuramente non è. Io ce l'ho davvero di zip, ma non va bene. Ma il pacco lamellare mi serve anche, voglio trovare il pacco lamellare. Roba, ma fatti la comprate le lamelle, gliele piace e ciccia. No, proprio il pacco, voglio vedere se c'è qualche lesione nella scatoletta in plastica. C'entra aria, ma non parte proprio. Parte perfetta, accelera, blum blum, però ma sembra che fa blum blum blum blum. Da vedere, è da vedere. E lì va bene, il pacco la bella delle 3:10, non ti prova bene. Ci vuole il suo, ci vuole, ma gente sotto c'è. No, negativo. Che già li sento. Ah? Che io li sento, forse camionista. Vabbè, dipende da dove sei. All'autorizzazione. Va, lascia di mala, ci arrivano i ronchi. Che accidenti, che cosa sono? È la strada all'autorizzazione. Siamo fatti dall'autorizzazione. 9:20, sì. Di Balibong, uno. Ma con tu caso ci faccio io. Parinocchi, guarda, ma io mi sono un po' strano che tu da casa di tua madre non mi arrivi a fondo scala, mi pare troppo strano. Sotto casa di mia madre ci sono due palazzi che sono alti 6 piani e mi chiudono perché sono circondato a ferro di cavallo. Basta che mi sposto 5 metri più indietro e ti arrivo a palla. Ma dove? Ma tua madre non abita più qua al monte? Ehi, mamma abita la cosa su via Prati. Ah, non abita più vicino ad Italo. No! È carta, infatti mi rimane strano a me. Cavolo. Ah, per quello, roba. E pensavo che era sempre vicino ad Ita. abita su andando alla scala. Strano, cazzo, neanche io non mi arrivo a fondo a scala, strano. Ah, vabbè, ho convinto che abitava ancora lì. Se mi beccavi 20 anni fa, non parlavi, stavi zitto. Che abbassato. Se mi da un attimo mi era due frocce di te, ti palleggiava, ci cazzava con me, tu pure la tarina si è passato in chili, perché la tarina era giù. Quando giravo la direttiva ci avevamo fastidio a tutti. Beh, erano quelli, li appuntavi addosso. No, vabbè, che Silvia mi ha un bel sbratto, Roberto Bandito. Cazzo, mi ammazzavano. Ma c'è Franco ogni tanto, ma ogni tanto, sempre. No, ma stai parlando quando andavo in banda laterale, che c'era, prima c'era Attore, tu l'hai conosciuto Attore Chopin? Sì, sì. Quando c'è poi l'antenna mia, l'antenna sua era a 40 metri, poi c'era Vittorio Carenti, su, poi chi c'era ancora, non ricordo, c'era un altro, Natalino era giù vicino a Gorimbo, quando andavo a Torre gli splatteravo 200 canali, 250 canali. Però roba, c'è stato un rumore strano. A me? No, rumore, capisci a me. Senti, capisco a te, ma non è idea. Rumore che ho fatto io o che hai fatto tu? No, un rumore strano. Si è capito, beh, si è capito, non fa niente. Ho fatto noi e non è tu. Perciò... non so, cosa stanno controllando. Ecco. Sono pagati per farlo, gli sto la faccia. Appa, non c'è problema. Non c'è problema. Sotto di terra quel rumo, non sopra sotto. Ma forse qualcuno che voleva entrare, non lo so. E il pizzo era disattento solamente lì, ma da ridere c'era. Ma io diciamo che parlavo sempre sul 14, un pompone o... E poi non mi ricordo che cavolo entrava. Roberto mi sbatterava, Non è tanto la potenza. È la radio che aveva, una radio micidiale, era un baracchio, un giocattolo, ma usciva del radio micidiale, proprio era di un bel forti. Non mi potevo spostare, cioè non potevo neanche parlare. Mi dico che mi andavo nel canale dove stavano loro. Non so, mi sto dicendo che... ma non... dovrei fare il senso. Quando attaccavi, si è andato in banda, con la IAC puntata, gli arrivava di spalle. Che sentivo tutti i canali. E vabbè, non è mandato laterale, sai com'è. Spingi di più. Cappagallo. Vabbè, diciamo che se entra Franco su 40 mi sbatta, non ti sento più. Però se attacco il Mobicom, chiudo la parola NFG, non lo sento più. Non libido al questo il Mobicom. Confronto a questo, il Mobicom è un gioiellino. È un gioiellino. Ma non l'avete venuto? No, è qua. Perché 120 io me lo volevo lavorare, non l'ho fatto. E tu vai, stai usando ora il normale? Il Midland. Va bene, come il Midland. No, il mio Midland. Io ma con un gioco cosa faccio, figurati. Tu c'hai il 340, non ce l'avevo io. Praticamente è il giorno di quello. Sono qua il Midland, 34 canali, tu e Intec. Questo è 34 canali, questo più io. Sì, 34 canali. Da 4 canali, ma non è normale, è normale, quello che è macchina va benissimo. Io ho il Midland, il monogatto, AMFM, Squelch, 34 canali. E poi il Mobico è a 40. A me mi prendono pure, manco l'FM vai. Io ce l'ho l'FM, ma non ce l'ho l'FM, è vero. Ma va lungo, già stato la rugata a 106. Gappa. Ehi vabbè, comunque esci bene, ma non va bene, io te la fotti. Ma se ti fa andare su di te qua per mettere, mi fa passare la mano di questo. Hola. Hola, avanti. Ehi, buonasera, Natalino Salone da questa parte. Ti sento, non ti conosco. Natalino Alfa 1 detto. Ma te l'ho bruciata un altro. Come? Un'altra, non te la fanno bruciata. Perché? Oh. Oh, stai comprando un cutter. No, ma guarda, questo macchino è da prendere e sbatterlo al muro, questo. Ah, giù l'altro, io vado a smazzolarla, al muro con nessuno. Ah, fa no, che ti piace qui, sai io. Per carità, guarda, Tali, questo macchino poi l'hai preso e... veramente sbatto al muro, ma veramente però. E di questo buon individuo a Tali... ti ne patisci luci, o te ne patisci a me? No, me ne patisci luci, a me non me ne dà zenigretti, ne manco un ghiduro malogato. E io sono i bigli a calasci. Ma non più di questo, Baro. Sanne, pur certo, perché, no, come questo. Tranquillo. Vai, che se tutti buoni niente che va giù io in casa tua, diventi manco, non riesci a fare da un nessuno. Ma fatti lui sta facendo un qualcuno. Per carità, e tu c'è un segnale forte adesso, ti sento. Ma senta Franco, su 30 è messo, senza dubbio. Chi mi siete vicino? Chi ci sono quelli a chi siete vicino? K. Però non mi ricordo. Ah, intendo, sicuramente Gio Maria, sta fischiando a che parte. È troppo ti dietro. Addirittura. Ah, non mi credi, no? Via. Infatti io mi ha visto, senti me la teniamo con quella sciacca, adesso attacco il pubblico, ma aspetti. Avanti il fischio, buonasera. A me è meiosa. Arrivate a Bigua, beh. Ma ci si to. Luca, lì si è finita questa e me ne fa la risa. Cos'è? Ci mettiamo la portata e non facciamo parlare. Ma è lui? Sull'11 non ti sento tanto, con l'ubico non ti sento. Sono fatto per regolare le cose perché l'antenna è calata in questo canale qua, capito? Allora mi sono spostato un pochino per fare delle prove. Allora, 80 euro. E come è arrivato così forte, Luca? Ma è perché sto funzionando bene, so, questa antenna. Ah, Gaia. Allora. Vabbè, ma stai... Ah, ma ascolti bene. Sì, ti ascolto, però non è 10 qua. Aspetta. Aspetta, ripegnare il tuo già qua, allora. No, che mi ha rivendito 9 10 a me. Per dopo di zenni, aspetta, sì, tu quanti mai mi ha rivendito così forti, oggi? Allora, lui è... Tu sei 6 a Mobicom, e lui è 7, quasi 7. No, è... 15, da. Ma cosa fai? L'1 o il 4 tu? L'1 o il 4? Ehi, il tipo non lo vedi se è 1 o 4, capito? Ah. Come radio normale, Natali? No, va bene come radio, Luca. Ma perché lui come la radio normale, non c'è amplificazione, per quello non riesco a capire. Natali, tu avevi visto... Aspetta, Alan, 318. C'è un altro serio, Maggianazzi, affrontare con la sua Igna, l'avevi visto? No, negativo, no, già sta uscendo bene Luca, già va bene la radio. No. Quello c'è Natali, se ti interessa, se interessa qualcuno, mi vogliono dare un THF7. Un TH? F7, aspetta e guardo, dovrebbe essere un quadribanda portatile, della Kenwood. Ma cos'è? Portatile, è grande come un pacchetto di sigarette. Il cavolo. Aspetta. No, a me non lo vogliono dare, a 140 euro, nuovo in Natali. E qua su eBay, messo oggi, è a 289 euro. Va bene, funziona. Bisogna farci funzionare. Ah, perfetto, è perfetto. Ma sta dando cosa? Ginko. Manuele. Maestro, a me è 140, se no mi ha detto 170-200. Pensa che qua è a 280. Dunque, è un portatile di due banda, 144-430, con ricezione simultanea in due frequenze e anche nella stessa banda con ricevitore da 0,1 a 1300 MHz. Già ho capito. AM, FM, V, SSB e CW. K. Bellissimo, piccolissimo, allucinante. L'8001 è Natali della conosciuto è. Luce. No, negativo. Negativo. Io sto vendendo questo President, sto vendendo Luca. Questo Jackson. Ma adesso lo chiedo. Mi sono dimenticato di dirgli a Ginko. Questo è nuovo, nuovo. Poi qua c'è Alan 555 la base, bello, sembra un Kenwood, bello veramente. Poi è meglio il 560, è digitale, bello veramente. Tu hai il 497, io c'ho il 485, c'è il 497 della Multicom, che è una roba allucinante, ma che è sempre. Questo è il 560. Alan, 560, stazione Masa AM FM, SSB CW, che fa da 25 a 28 MHz. Buonasera, Salvatore. E dove lo stavo vendendo Luca quello? No, c'è un catalogo vecchio, un catalogo vecchio, bello, veramente non me la radio. 566 anche è bello. Ma 566 non c'è, c'è il 555 e il 560, bello veramente. Però il 560 praticamente è digitale, è meglio del 555, veramente è bello, la base. Capo, è trovabile. Salvatore. Ehi, ciao Natali, no, mi stavo appena rientrando, mi stavo proprio a cambiare, e ci accendiamo. Sentito, quello non è male, eh. E tu quando stai dando il precedente, Natali? Con te ci mettiamo d'accordo al limite, se è per te. No, io ce li ho, per un ragazzo che sa per una BM, ma dice che forse se lo voleva mettere. Cosa, su per giù cosa ho operato? Ma non si può mettere in BM quello. Ah, ho capito, no, giusto, non è quello omologato. No. Ho capito, no, glielo dico, niente. Ok, dai, riprendo un attimo, dentro 10 minuti che finisco di cambiarmi e già rientro subito, riprendi Luca. Coppa. Allora, fumano qua, sperare, ecco, per lì, CB, 87, 800, 2001, 87, no. C'è la camera, ecco lui, camera, ecco, per apparati CB, con audio e bip. Praticamente c'ha... vabbè, regolazione, guadagno, regolazione uscita, ecco, praticamente assorbe 600 ohm, da 300 a 3000 a kHz e assorbe 400 mA. Un raggio? Esistato. Un raggio? Che è un raggio? Ma ascoltate questo bugiardo? No, sto leggendo. Ah, legge. Ma lì la terrestra mi fa un raggio? Ma è da ciò per te. Ma fa un raggio? Dici perché? Io non lo so, non credo di aver detto bugia. Perché sei bugiardo? Perché? Spiegamolo, dimmi il motivo. Perché sono bugiardo? Non mi male, ma... E perché? E perché? Affanculo. Aspettate, Gianlu. Poi qua c'è la serie, mi... Ma lui c'è il microfono tuo, cioè, sto usando adesso, non è cazzo. Allora, S24, F10, F16. Microfono preamplificato, regolabile, coro gear beep, pistolante, batteria nuova al volo, F16, 4 pin. Devo vedere in 40. Poi la testa, un microfono di tavola qua. Natalino. Natalino. Un attimo. Ciao Natali. Ciao bella tutta! Amico qui! Sì, a Vuglia! Piccolina sono! Santiago Nove non sei piccolina, no? Già sei grandetta! Ah, credo che è piccolina! Già, ti ascolto bene! Meglio così, Natali! Meglio che mi senti bene! Davvero! Tu zitto, cosa vuoi? Già che c'è? Dillo! Amplificatore! Se lo usi con l'altro me ne stai andando via 8 e mezzo. Io so che me la dici, quello ragazzi, la dice, ma se io non qua, 5 watt e mezzo. Ma che c'è la scala di sopra? Ma il watt sono sotto, la scala del watt è sotto, sono 4. 4, 5, 5 e mezzo me stanno, modulati. Vabbè, comunque quello, se c'è il 25, 5 gliene devi dare, non 5 e mezzo, 6 o cosa. Vabbè, avanti Mario, dai, riprendi. finito o no? Beh, adesso vi faccio parlare. Per sapere. Guarda, sta cos'ha? Aspetta, ma non mi voleva facciamo la cosa. E le facciamo mangiare le parodine di mano. Va bene. Adesso. Vieni che su. Ah, non so qua. No. Tu come segnale sei uno, però come radio diciamo sei quattro. capite, così è Luca è 7, Natalino è 7, però perché gli hanno regalato lo squelci con un, per una mantova, capito? E sicché vuole ritarato, non facci caso, però la radio è 4. No, è comprensibile. Sì, a voglia. E me è Luca, certo, è lungo. Mario è 9:10 invece. Vediamo cosa sono 9:10. Se allunga la finestra ti do la mano. Ma non è questa? Allunga la finestra ti do la mano. Non ti piace? Te l'ho fatta ripetere perché non l'avevo capita bene. Finestre, quindi ci prendiamo il caffè. Ecco, appagato, allora io domani sarò a Cagliari, mi viene un po' male. A meno che lo facciamo domani sera a quest'ora. Sì, sì, io domani la porto l'altra guarda conto. Sicuramente l'hanno lasciato all'impicco. Adesso guardo dove c'è. energia attaccato. C'è una differenza? Io non è attaccato, eh. No, prova lui che non sto guardando. Un po' rilassato, ma lo stavo ascoltando. Lo appoggiate alle... come si chiama? Capicorda dentro, però non la sto alimentando. Guarda lui, così è staccato. E così è attaccato. Io adesso io a 7, a 7 li passo comunque. Ma la radio sembra la stessa? Sì, la radio sì. Paga po'. Oh, magari scaldando leggermente, devo buttare fuori qualcuno in più. Adesso facciamo scaldavere. Vado via. Scaldamento. E qua dice, allora... Cattore a casa, per la qua dice 40 450 da sotto, la potenza di uscita 5 watt d'ingresso, era 35, non 30, 35 sono. Ma tu vuoi colare? Cosa? Tu vuoi colare? Dopo. E che sono pacchetti di sigarette, più o meno. Che alimentatore stai usando? La KP12. Che fa alimentarlo? Fatto 12 ampere. Vabbè, la 5 te ne prende la radio, giusto? No, ce la fa prendere 5, ma sto scherzando. In tutto sta assorbendo 8 ampere, neanche. In trasmissione già ti riprende 3-4 ampere comunque. 3 ampere ti riprende la radio in trasmissione. Però non lo siede. Ui, c'è un stavo ristrappato. Aspetta. Che sta scaldando. Sai, dissipato lì dietro. Ce ne sono, ce ne sono un bel. C'è il 797 AB300. Sì, sono un bel. Cavolo, che qua. Che sia. Pesa 170 grammi. Lineare. Ma sta piccolino, 735. Amplificatore HF, la stazione mobile, con MOSFET di potenza. Se ne stazionali non ti aumentano lui? Sì, a 1,5 salgono. Vabbè. Ma già anda. Poi c'è un altro, che... potenza di uscita 35 watt, potenza di ingresso 58 watt, 50 ohm, 220 grammi. E su cazzo, ma che caldo, allucinante. Mettici la tazza del caffè, mi sento non riscalda. Ma vedo, è bollente Mario, bollente. Ma poi scalda senza trasmettere neanche. Non so, sta mai strano. Babbo, non lo so. No, io va bene, non scalda tanto, però c'è un avventore all'interno che si è sempre più prende. Ia. Non sa. Oh là. Allora qua a me. Ma con due classi, boh. Allora a me qua, 60 anni al baracchino, scende a due. Attaccato solo a 9. Vamos, vendo. Vabbè, tutti i pari dice di Gianni già arrivato, Roberto. Sì, ah, lui sì. L'avviso. Luca. Natalino. Michelino. Mariolino. Mario Vera è qui. Luca, chiama Massimo. Attento, Massimo. Aspetta, mi faccio due pareti quando vuoi vedere la realtà, Luca, micidiale. Ma ci vuole Antonio qua, se no si può fare. Ma ho salvato perché dammi come quando vuoi vedere un dossito. Ma ci vuole Antonio Riserva qua. Lui si chiama Simone, io Massimo. Simone si chiama? Lui si chiama Simone, io Massimo. Ma dove sei Massimo? Dove sei Simone? Ecco, micidiale, Federica. No, va. che giornata del sole. Comunque sabato dice fa caldo, 20 gradi sono previsti. Fuori di gabbo. Luca, non c'era qualche piastra di alluminio, qualche dissipatore di alluminio, ce l'ho così sopra, così scarica ancora meglio. D'alluminio, dissipatore ce l'ha già. No, dico, se ne hai altri, un dissipatore di qualche apparecchio che non usi, ce l'ho così sopra e migliora la dissipazione, oppure con una ventola per farmi uscire l'aria, se c'è un ventilatore. Un ventilatore ce l'ho, no, c'ho la ventolina pure, ma non mi giuro la piazza. Una pogana, è un caldo, lascia vedere, è sua. Qua, non ce la mettono sul fuoco, ma... non ce la fa a farci salire il caffè, no? Questo buco scalda, allucinante. Ma con le mani, ce le puoi tenere le mani sopra, fisse? No, roba. Allora, stai attento che non mi saranno troppo pilotaggio mia con la roba lì, per quello che stanno, attenzione. La cicluta, se me la fa, questo cazzo, mamma mia, non la puoi tenere la mano sopra. Luca, ma non è che c'è il cavo di alimentazione da troppo sottili, no? No, non è per quello. E, vabbè, adesso sei sedocchi. Massimo! Attenta, Massimo, c'è la tua vita Luciano. Luciano, mi cognato? No, ma con la moglie. E niente, in giro. Ha fatto l'inviato del farina. Sono passato davanti a casa tua, mi sono molto cortesato perché era una grazia di merda all'assicurazione. E sono passato anche di fronte, che mi immagino dove lavora Franco del Tauno. Ho visto due tipi furi, ma la merda, non so qual era di lui, era Franco. Boh, non so. Ma non c'era neanche lui. No, l'ha preso il negozio. E ci ho capito come se sono tutto vissuto la base di catena, io di fronte al bar, di fronte al bar di coso, come si chiama? Feeling, così. Scappa. E allora già entro, non c'era sbagliato, non mi sono altri di negozi di computer. A fianco cosa c'è l'agenzia, cosa è immobiliare, cosa del genere, di prezzi, di cos'è? Via, ma che c'è un immobiliare. Sicuramente bu. E magari. Magari c'era il suo collega e lui non c'era, capito? Non lo so. Luca, il suo figlio di Vatrano è il figlio della tua volta. Vabbè. Sei giusto. E va. Salva, fate il venerdì, sta andando a ritirare le maglie della squadra, ha avviato la gente sul rumore, si la gente, non mi si sente da che cosa, si è sudato, non è partito più, si è sfuso il motore, sono arrivato a spingere fino alla lavazzetto. Mi ci avete bloccato. Sì, adesso ci ha buttato, mi ha preso la vittoria, me ne ha venduto uno, di però fuori di nuovo, 1.700 turbo diesel, e alla macchina era la macchina, lì c'era un freddo riccio. No, c'era uno, mi ha detto, guarda che c'è gente che te lo compra, mi ha preso il fuso, l'ho cercato, lo pugno, l'ho preso qui per mettere il fisso, se ti vai la capisci che è un più venuto. Ma è una sistematica roba che fa per 10 anni ancora. Sì, uno se si trova un motore, ma lui non sa niente del motore, perché noi la dicevamo solo luglio, ma sicuro che ci sia il casaco del tutto il settore del gasolio, perché non ne abbiamo cambiato da anni a quella macchina di mai, se è casato è per quello che l'ha fatto il tipo, perché il motore già gira, quando lo fa girare gira. A diesel? 1013, se c'è il vecchio motore della 1 diesel, del 127 diesel, un motore di raguerra, però ha sempre camminato in questa macchina. Ma gappa. No, ci sono gruendi, è una frutta a te, ma te lo paghi, sono già regali, bruh. No, ormai abbiamo la macchina, devo dirlo, sto abbiamo una mesa di birra, non c'è tempo da birra, che poi mi devono fare il rimborso dell'assicurazione, se no, i giorni passano e peggiorendo. Vabbè, da lì la passa l'altra macchina, cosa ne fa? Perché Luca, quella lì è interessata allo fratello Fiorino, questa invece è interessata all'officina, alla vita, per cui non si può fare avventuramento, se tu vuoi subi, oggi me lo devo portare oggi il certificato di rottamazione, se no, siamo così tra un mese che scontiamo, cioè che c'è un mese da pagarti, perché in base al giorno quando glielo dai, loro si fanno i conti, quanti giorni se ne rimangono alla scadenza? 3 mesi, che ti pagano 3 mesi. Paghiamo un bene per quel cazzo di macchina, 400 euro, adesso vabbè, quello 348 ogni 6 mesi, questo nuovo 400 euro ogni 6 mesi. signori. Roberto, ma tu lì non stai dicendo? Zappa. Ma perché ce n'è uno che gli interessa un fiorino, quanto vorresti recuperare? Ma l'hai visto il fiorino mio? Il fiorino qui che io mi stavo parlando, tipo 127. Ho capito, fiorino ce n'è un modello solo qui. Cioè ce ne sono tanti modelli, però il classico fiorino, là. Tipo 127 no, c'è cioè il fiorino nuovo, il fiorino tipo la Duna, tipo la Palio, sono invece. Il mio è proprio il primo, anzi non è la prima serie, sbaglio, la seconda serie di fiorino, perché ne hanno fatto almeno 6 serie di quelle macchine. Quanto vuoi realizzare? Io che chiamo il tipo, se gli interessa, le dai a lui, perché l'altro giorno mi ha detto la macchina ideale per lavorare, per portarsi gli attrezzi, le bombole. Capa, però il problema è che c'ha tutto il motore con la macchina. Non mi piace dare il fregato della gente, non le vogliamo e basta, gli avrei regalato, ci avrebbe fatto il passaggio, ma avremmo cavato un sacco di roba, ma l'avevo cavato il coso, tutte le lampadine, roba elettrica, lascia perdere mai il fucile, se l'avessi saputo prima. Ah, capo, allora niente, là. No, perché ce n'era uno che molte volte lavora per lui, che siccome lui fa il salatore e si porta le bombole dell'ossigeno, e siccome senza portarlo nella sua vettura che esce a passeggio, stava cercando un violino. Allora, vabbè, ma se ne hai già tolto tutto, cosa vuoi che ti dica? Allora, se vuoi io lo chiamo e al limite ti risparmi 300 euro di rottamazione, perché Marcello vuole 300 euro, già lo sai. No, vabbè, 140 euro, ma lasciamo stare, mai, tutti i giorni, dai, sai come non ti abbia detto niente. Non mi piace, perché avrebbe dovuto mettere tutti i fanalini, le faccate fanalini per recuperare le luci interne, ho recuperato dei pezzi delle serrature che ne potrebbero essere utili, raga, abbiamo tutti i giorni. Invece ti volevo dire una cosa, guarda che mi ha chiesto un amico, una motosaldatrice sta vendendo dalla base, così rapido da 2 kW, nuova, messa bene, se interessa qualcuno. Saldatrice di che cosa? No, molto soldatrice elettrica, a elettrodo, che fa anche da gruppo elettrose, ma quelle che usano le fabbriche quando fanno interventi fuori in strada, diciamo. Cioè, il gruppo elettrose lo fa con la soldatrice incorporata, fa tutti i tipi di elettrodi, una bella macchina, l'aveva pagata allora su 1000 euro, adesso sta pagando 1200 euro trattabile, roba nuova. Cosa mai chiede a quell'installatore se la vuole, o a lui o a Gasperini, solo che io domani non... sicuramente non lo vedo perché sono a Cagliari. E non so manco chi era il ritorno, se torno per le 2, se torno per le 4, perché devo fare un po' di giri, devo entrare a Marcomero a consegnare, e poi devo scendere a Basata, caricare i serbatoi, scendere giù a Cagliari, finire di caricare a Cagliari e poi rientrare a Sassari. Se no, domani mattina stessa avevo chiesto. Vabbè, come l'ho detto, ma se per quello lì, Gianda. Ui, ui, ui. E qua non attività. Ma tale che ti ha fatto? È sparito. Attento dottor Rossi, se si cambia. Ma è andato via anche la talina però. Tocca. E gli amari. E la già attento. Ancora no. Ancora no. Capa capa. Io tra poco lo stesso. Caricare il caricamento. Claudio, non si è fatto sentire per niente. No. Piccata, ieri sera quando avevo telefonato, era ancora là o no? Non so che dirti. Scappa lappa, già va bene. Sì, vabbè, purtroppo qualche volta gli tocca, poi ieri erano incasinati per quello sciopero, bro. Non so. Non so che dirti, Mario. Arriva tu e fa sciopero, arriva tu e. Solo che chi c'ha la tua club va bene. Noi non ne abbiamo e vabbè, pazienza. Ma ce l'hanno fatto, vuol dire che non ci sono soldini, capito? Ma io se ce l'ho la tua club. Io ce l'ho in casa la tua club, con un bidone di 300 litri. Sto a casa. Sì, la tua casa, vai. Un terrazzo. No, nello scambusino adiacente alla doppia servizio. Ormai c'è un serbatoio da 300 litri, una pompa di quelle piccoline, mezzo cavallo, intanto per riempiamo lo stesso, ce n'è anche di avanzo. E niente, quando manca l'acqua, chiudo quello che va alla condotta normale e mi pompa l'acqua dentro casa, ce l'ho in bagno, nella luce, tutto. Tu cosa hai fatto? E allora? E bravo Mario. Luca, ogni volta che manca l'acqua, o perché non leggi il giornale, o per un motivo, o per l'altro, quando vedo che non c'è l'acqua, chiudo quello là e apro l'altro, e le arredi. Cappa cappa, già andare allora. Già va bene, cappa cappa. Sembra come dici, ma che me ne hai spesa lì, eh? Cosa ho speso? Diciamo di pizzi avrò speso all'incirca un milioncino, perché tra l'autoclave, valvole, serbatoio, tubo d'esame, raccorderia all'aria, avrò speso all'incirca un milioncino, là. Ti mori poco. Non lo capisco. P5. Mi ha col telefono. Cosa? Aspetta lì. Aspetta Fabio. Buonasera a tutti comunque. Ciao Mario. Ho cucinato un microfono a un tipo, sono stato colazione, 200 euro di microfono, ma se tutto mezz'ora lì asciugando il cervello, facendo il stigliato la chiave, vediamo al sole. Ah, e tu non me lo dici a me? Bah. Lui non ha chiamato il 27, così che non ci interessa nulla. No, no, non entro. Io per lui se la manca. Vabbè, ma sai quanta gente c'è che fa l'ascoltone, ascolta, ascolta e non entra mai. Sì, ma infatti adesso che arriva molte volte, così si fa un giro un po' in ascolto e basta. Dai, KK. Eh sì, così è. E beh, tu, Luigi, cosa mi racconti di bello? Non ti racconto. Sono uscito alle 6:30. E così tardi? Perché non avevo il terminale oggi, quindi me lo dovuto fare tutto quanto a mano quando sono entrato. E quindi non so. Cioè, domani devo andare dalle parti di Toate. A quando esci tu io sono già a casa di domani. Come mai? Perché domani mattina devo andare prima a Macomer e devo fare una consegna. Poi da Macomer devo scendere a Basanta, caricare due serbatoi, metterle in modo che mi pigliano poco spazio. E poi devo scendere a casa da caricare. Scappa. Già con io avanti ieri. Non c'era, no, e hanno mandato a me a sostituire dopo. Cosa fa? No, aspetta, non avanti ieri. Vabbè, qualche giorno fa non c'era. E mi hanno mandato da solo. Ho fatto un casino. Quando è rientrato poi ieri, o avanti ieri se non mi ricordo, ci hanno fatto dividere le consegne. Ci hanno fatto dividere le consegne. Quando sono arrivati in magazzino lui aveva già tutto smistato, no? Aveva già sparato, aveva fatto in due carrelli, tutto quanto. Vado a consegnare e c'era una via a Castel Sardo, via Mazzini. Arrivo su al castello e c'era la strada chiusa ed era un pacco di 30 kg con dentro il formaggio. Allora un gruppo con un lago. Non c'era il due, ne ha tutte quante i pacchi pesanti e dove non ci si poteva arrivare in macchina, compreso. E così va bene, domani io tutto castiglio manno. Ma qua però non ho capito cosa fai. Come non hai capito cosa faccio? Io sono nella termoidraulica. Pure mio padre. L'idraulica, la becca lì. Capace. Il tuo padre magari lo conosce pure. Ah già. Il principale. Boh, come si chiama? Beccari. Beccari. Da un ballo. Boh, aspetta. Non c'è, è sceso a portare il cane. Sto anche uscendo. Stai anche uscendo. Allora, buona passeggiata, buon tutto là. Che io adesso mi accetto, devo andare a riempire il sacco. Ok, intanto devo andare a provare un portatile di mio. Va bene, va. Ciao, ci sentiamo. Si è cambiato canale, non stavo parlando. Stavo dicendo, devo andare a provare un portatile di mio cugino, quindi se ci sentiamo, cioè se mi senti già ci sentiamo, tanto dopo è proprio. Allora io sto a parlare, poi io mi scappo di caricare e poi sono di nuovo in radio. Noi lo chiederà dopo. Buona passeggiata Fabie. Ok, buona pappa, ciao. Attento Gemetro, attento Gemetro, vamos a scucci in nord di Sardegna che va chiamando Bricò. Luca, ci sono 9 ora. Ah, dove ti richiamo? Qua tutto ok. Perché questa voce qua? Dipende da te allora. Ti vai 9:10. Tu sei salito adesso, 9:10. Non lo so, non c'è da saldare presso l'antenna che è quasi. Vedi tu cosa fare. Le vabbè, però è un po' di sentare bene il radio, poi il segnale un attimo. Ma ho deciso di riprendere. Sì. vado a scriverlo per sapere l'indirizzo, non mi risponde. Gli ho mandato un messaggio al cellulare e non mi risponde, me lo giuro. Vabbè, te ne diri. Senti che gente, ma te l'avevi venduto? Te l'avevi venduto? Vabbè qua, a tratti ci scendi. No Vasco, io non ci casco. Siamo giusto. comando, bu. Mi siano attaccati i fili. Ah, sai io volevo cazzo un attimo a saltare i fili, un attimo. Vai da Claudio, come c'è Claudio? Di personale. Vai da Claudio, ti risalda. Ma mai già c'ho il saldatore, solo c'è tutto in cantina, c'è una scatola, non ho tempo ancora. No, la salveria, ma portava te la faccio io, va bene. Sì, vabbè, sbirillo. Va giù tutto, saldatore, stagno, tutto quello corrente che serve, cappa. Beh, io vado a farmi un giro, ci sentiamo dopo, intanto devo provare un portatile. Via, in macchina. Perché l'altro mio cugino ieri e non aveva le batterie, non sapeva se funzionava. Quindi ho provato con l'alimentatore e funziona. In macchina come fa ad attaccarlo? No, c'è un antennino su, no? Antennino su, no, e come alimenti? La batteria, le ha comprate adesso. Ah, cappa. Babbo, ci abbiamo dopo, là. Ciao. Ciao, ciao. Luca, Fabio, come te, certa gente, infatti quando vedo se i bambini stanno giocando con l'acqua subito gliela chiudo, dico a fare attenti. Il discorso che si tiene all'acqua quando ti accorgi che ce n'è poca, se no la maggior parte delle persone la frecciano. Perché però io ho visto che c'è la gente, Luigi, era senza acqua, lei l'ha parlato, era un metro scendendo, cioè, non vai io, ma vai 200 litri d'acqua di scorta, non te ne dirà pagando non andare in onda, e poi c'era come se niente fosse, io rompere il cannello, ho detto andare, vai, vai, ha detto la bella, vuol dire che si chiama l'automorte. Raffa, non c'era niente che ha visto la fontanella in Galeadua, niente di meno, un bel di niente. Le assassine mi immagino che ne siano in bimbi. Prima c'erano un po' in giro, adesso ci sono queste due in via Leadua, non ha visto altri, perché la maggior parte, non so, se c'era al monte una, le ha aperta l'anno con la natura della via Nura, la via Est. Ma se le metti in ogni angolo ce n'è una. Grazie che lo dico. Buonasera. Buonasera, dottor Ron. Me la vedi. Ma sai che mi sono sentito male poco fa, non ho fatto tutto, ma ha salutato di tutta questa nausea, questo mal di pancia, di corpo, sono una roba influenza. Stai attento perché la ricaduta è peggio me, Gianni. Ma non è che abbia fatto nulla per prendermela, ma io sono abbastanza riguardato, ma sarà qualche virus, boh. E mi ha detto questa ricaduta che c'era a casa, che anche lui era così l'altro giorno. È venuta nausea, di corpo e mal di stomaco. Appagata, bisogna starci ben attenti. Vabbè, non mi cazzo. Già, ripeti che mi ha avvisato, c'è una bambina che mi ha parlato sopra, ripeti. Che stai facendo così basso? Come basso? Sono importanti le sono. Basso di guardi. Però io sempre la stessa chiuso la notte, quando sono così, vabbè forse perché sono sdraiato, sto guardando un pezzo di partita e sto parlando, adesso meglio mi senti. Questo, vabbè, come se ti ascolto e non è che Mario. Mi sentivo poco fa in tutti i canali, compreso USB, USB, eccetera, eccetera. Si sentiva la tua modulazione e chiarazione in tutti i canali. Francesi, gente parlando in francese o in spagnolo, sotto di lui. Vuol dire che si attiva una propagazione. Sembra le calamite. Comunque c'è un segnalone, Mario, eccezionale, considerando dove. Ma è una buona zona, come considerando dove? E guarda che quella di Mario è una buona zona, c'è cioè, una c'è tutto libera, che è abbastanza buona come zona. Io guarda che anche con le LBT da lì parlavo con Claudio, figurati, da casa non mi sentivo da lì parlavo. Affacciata, no, ma considerando che io sono più in alto di lui, lui risulta molto più in basso rispetto a me. C'è un sacco di palazzi che lo coprono nella zona mia. Arriva anche adesso, ha migliorato anche Luca Flipper, arriva molto meglio di prima. Lo sento anche a Pavottore, di Luca Flipper, già me ne sono accorto. E a me mi sentivi? A Pattatore, mi sentivi a me? Sì, a te ti ascolto sempre. Ma Luca Flipper dopo lo intendivo prima. Adesso lo sento bene. Mi ha arrivato Marco lì, lo scusate, mi viene con la favola, se no se ne andrà di mamma. Già. Dimmi, vabbè. Io la chiamo mia figlia. Sì, sicura, non c'è problema. Non è che non è già segana, perché non mi sento manco bene. Ma come vuoi, mi senti con la lingua una solo? Ah, riprendi un attimo. Gappa, gappa. Perché anche tua figlia così è... vabbè. Ora c'è quella piccolina micidiale, cazzo, devi sempre raccontargli. Ti dico una cosa, ogni giorno che ne viene dall'asilo, oggi l'ho presa prima, mi hanno telefonato che stava male. Stamattina era bella contenta, allegra, ridendo, mi telefono che stava male la bambina. Sono arrivata ed era addormentata, coricata sopra il tavolino, dormita, era fissa. Si è preso un febbrone allucinante, infatti adesso è addormentata. Appena arriva lei, ogni volta, ogni giorno che arriva dall'asilo, lo vado a prendere, entra nell'ufficio e si deve per forza prendere un giornale, una rivista e se la porta a casa. Di loro non si muove. Un terremoto è caldo. Era micidiale, infatti lì dico, ma cosa se ne fa? Si prende queste cose, si guarda le figure, si mette a parlare da sola, si mette a raccontare storie. Tu la vedi, è un piccio solo da vederla. Si fa sentare lì, vedendo un giornale, libri e cose del genere, e si mette a parlare. La grande invece si piace giocare col computer. Lascia stare che giocando imparano tante cose. Anche facendo gli sbagli, poi si accorgono dove hanno sbagliato, quella è una buona cosa. E anche per la piccola, non ti lamentare. Non ti lamentare, no, e non dire, non fare osservazioni. Vedrai che quella lì, la piccolina, diventerà una grande lettrice. Te lo sto dicendo, è una cosa esagerata, lei si mette a disegnare, a leggere, o leggere quello che non lo sa ancora leggere, però è da fare una lettrice al viso. Si mette a leggere, a inventarsi le storie. A me l'altro giorno mi ha detto, dimmi, raccontami la storia. Ho detto, no, raccontamela tu, gli ho detto. Ha cominciato a raccontare, inventava una fantasia impressionante. Cappa, meglio così, che diventano più mature e più effetta di quello che tu immagini quando sono così. La famiglia là è la Sagirosa, ce l'ho qua vicino, mi ha detto, dilli che gioco a calcio io. Come ti chiami tu, Mohamed? Fallo a parlare. Sai che ti faccio salutare la Giorgia? Mi chiamo Giorgia. Ciao Giorgia, io ti conosco già, ti ho visto l'altro giorno con mamma. Visto, dillo Giorgia. Lui si chiama, dilli come ti chiami. Come ti chiami tu? Io sono Mario. Benvenuta. D'accordo Giorgia. Ma dove sei sempre Monellina? Giorgia. Perché la sta chiamando? Marcolino? Marcolino. Tu sei quello faccinito dell'amico di Luca, vero Marcolino? Faccinito. A me faccinito. Ti faccio salutare da Giorgia, Marcolino. Ciao, ciao. Ciao, sono Giorgia. Ciao, Giorgia. Marco Faccinito. Bene, dove? Grande, Giorgia. Marco Faccinito. Che ti faccio salutare la Giorgia che adesso va a fare la nannina, che domani deve andare a scuola. Ciao, adesso sto andando a dormire, ciao. Ma Colino, ti sta facendo. Ciao, ti voglio bene. Senti cosa? Che ragazzo, ti voglio bene. Ehi, amato, sei così affettuoso, dice a tutti. Ci sta, complimenti. Era una grande però, Giorgia, la figlia mia grande, qua che ha 8 anni, non era mica la piccola. E adesso sono con il cazzo là, ti lascio andare. E infatti dico, ho tagliato vabbè. La grande è 8 e la piccola ne ha 4, li ha fatti a dicembre, lui ne deve fare 9 a maggio la grande. Che sta parlando, la piccola? Ma no, la grande, questa è Giorgia. Ah? Ma no, è Giorgia, bello veramente. Beh, niente, che hanno inteso, mamma mia che brutto Giorgio, la cantante, l'altra si chiama Michela invece. No, Giorgio è bellissimo, però veramente un bel nome. No, a me mi piaceva, mi è piaciuto subito. Mi piaceva tantissimo Alessia, anche a mia moglie, ma poi ho detto, vedo Desimila, e Alessia, gli abbiamo dato un nome che ce ne sono pochi. A me piaceva Jessica. Jessica è troppo, come si chiama, impegnativo secondo me. È un nome, non lo so, qua per una bambina è troppo impegnativo. Mi piacciono a me i nomi più corti, delicati, tipo Michela, Alessia, nomi così piccolini, nomi corti e facili da pronunciare. Anche Manuela è dolce come no, è lungo ma è dolce. Mia moglie si chiama Manuela, Manu la chiamo io. E anch'io, la chiamo Manu, a Manuela. Ma Giorgia Gigia, e Michi la piccolina? Tutti hanno nomi mio, allora. E infatti sempre Gigia e Michi. La maestra Michela chiama Ciccia e si arrabbia, non vuoi mi chiamare Ciccia? Ciccia, tu ora come ci ha trovato nel calcio e che figura che ho fatto? Ho trovato la mia amica che è un po' robusta, che è abbastanza robusta, mi ha detto, sempre Ciccio, ma come complimento, quella ci ha fatto la rossa come quello però. La dico una figura che ha fatto un'amica mia, una signora, con una cliente. Allora dice, è venuta questa cliente in negozio, la cliente si conoscono da un sacco di anni, anzi due clienti, è entrata questa, ah gli devo dare, signora gli devo dare una bella notizia, sono in dolce attesa, sto aspettando, c'è qua lei, tra un paio di mesi, eccola lì. E c'era un'altra signora, amica di questa qua, ah, anche lei in dolce attesa, e gli ha detto no, non è vero. Ha fatto una figura, che devo avere avanza, anche lei non si attesa, no, no, è iniziata a diventare rossa rossa, è rimasta così in mare. Io non ho un amico che ho parlato di punti di vista, ma io ricordo tutti i miei, dopo non lo so come ti vedi. Io ti do la fortunata, io sono un amico mio, che gli manca la mano. Amico proprio d'infanzia, un giorno è capitato un incidente stradale e c'era il vigili, non il vigili, la polizia stradale stava facendo un rilievo, e ha detto ragazzi dateci una mano, e io c'era sempre con la mano in tasca un'ora, aiuta, ma ci sono stati parecchi a prendere le misure, è arrivato a un certo punto, ma non cosa mai, la mano usa, non ti la vuoi chiamare, me la bussata, la chiudo, si la chiamata, e il poliziotto, oh scusa, non lo sapevo, ci è rimasto così male. Ma non possiamo immaginare. E una volta questo tipo, se ho detto, sto questo qua, come va a sapere, questo vuol dire, lavoro una mano, mi sono bloccato perché non mi sono senza lavare. Ma questo ragazzo è troppo togo, non se ne mette, anzi lui, cioè, non se ne fa assolutamente un problema, tu lo devi sentire, da salire si è mandato in un negozio di autoricambio, sono entrato, e beh, arrivi dalla mano a questo qua, la mano destra, la mano sinistra, no, sono arrivati tutti i dritti, dal sito dell'autoricambio, lui tranquillo, c'era un altro dell'autoale, e anche arrivato a tenere sono mani, sì. No, no, tutte le destre le stanno mandando, dice. Ci scherza per far vedere che ha superato il problema, però dentro di sé magari non lo so, sai che ha trovato roba, una fotografia di quando avevo 19 anni con il barattino modulando in macchina. Sempre col toccaio, cosa c'avevi? Ah no, no, non avevo il toccaio, io c'avevo un aereo in quinto, 120 canali in macchina. E già 120 canali ci ha preso. Ma dimmi una cosa, funzionavano all'epoca tutti questi canali? Erano occupati? Sì, sì, specialmente in estate c'era una propagazione, cose. E poi quando c'era gente, vabbè, di solito occupavano i 40 canali, però molta gente più diceva fare un concerto tranquillo, per esempio se andava su 120 canale, vuol dire non ne rompeva le scatole nessuno. No, anche prima la maggior parte erano 23 canali, mi ricordo, quando ero ragazzino io sentivo sempre 23, Lafayette, HB23, tutti i Toccai, poi cos'erano Zodiac, tutti i Maracchini, il Midland, erano tutti 23 canali prima. Sì, erano tutti, c'era gente che ci aveva il Contact, c'era gente che aveva, praticamente ce n'era uno che era precisione di al coso, alla Yenquin, alla, come si chiama, adesso non riesco a portare la testa, allo stesso senso come dire che mi mancava la parola, il Galax, precisione di qual Galax. La Faia ti sta parlando? No, no, no, si chiamava, e adesso non mi viene, comunque aveva un altro nome. Ed era tutto quanto cromato, invece che ce n'era, era tutto cromato, ma bellissimo. Comunque la Fayette, io stavo leggendo, il Midland è un marchio americano, c'è un Midland a casa, lo stavo leggendo la storia, la Midland è un marchio americano, esiste dal 1957, è stato acquistato dalla CTE in maggioranza è la CTE che è una ditta, un'industria italiana, produttrice, ed è il più grande distributore di baracchini in Italia, è uno dei più grossi al mondo, uno dei primi due al mondo, la CTE, lo sapete? Sì, sapevo che era una grossa ditta, però adesso puoi dire, con il microfono amplificato, non ha c'è più. Non so, infatti c'è nel catalogo della CT e c'è il microfono palmare amplificato. Sì, vabbè, ma non servono a nulla quel microfono. Sì, vabbè, diciamo, non è la stessa cosa che utilizzare un microfono a tavolo. Ma ormai, guarda, io sto guardando una cosa su internet, ormai le stazioni fisse saranno, cioè tu mi parlerai dei portatili, ma le stazioni del futuro è sul computer, ho visto una cosa che attacca al computer, ti danno, ti scegli la frequenza, ti imposti la frequenza sul computer, la modulazione, l'equalizzazione, qualunque cosa vuoi fare lo fai tutto sul computer. Direttamente non hai più bisogno di nient'altro, attacchi l'antenna al computer, ti metti un trasmettitore e poi se ti vuoi mettere in lineare ti modifica la frequenza, tutto digitale, fa tutto in digitale, cioè quegli apparecchi che c'ha Claudio lo fai col computer, tutto quegli apparecchi HS quello lì. Sì, vabbè, ma noi siamo oramai metodici, a me piacciono le radio, vedere la radio è una cosa diversa, a me piace tutto, muovere gli strumenti, vedere l'illuminazione. Twitter è digitale, con l'indicazione della modulazione, c'è cioè l'oscilloscopio che ti dà la forma d'onda, ti puoi cambiare l'equalizzazione della voce. Io credo che Marco Scorpio non ce l'abbia già una cosa del genere, perché l'altro giorno stava facendo delle prove di equalizzazione e mi immagino che lui una cosa del genere ce l'abbia già. Costa 1600 euro questo discorso qua, più il trasmettitore, diciamo, perché ci vuole un trasmettitore e poi ci metti il lineare, ci vuole un trasmettitore per impostare l'uscita, diciamo, dopodiché tu gli dai la frequenza, gliela imposti tu da computer, cioè il canale, ti appare il canale nella pagina, la frequenza gliela metti tu e ti fa tutto in automatico. E vabbè, tu utilizzi il computer come un trasmettitore, cioè all'interno della radio, del baracchino, tu c'hai un processore, no, che ti dà l'oscillatore che gli imposta la frequenza, fa tutto dal computer e tu puoi trasmettere teoricamente su qualunque banda, l'importante è avere il lineare per quella frequenza. Sì, ma non hai capito, l'antenna che cosa utilizzi? Tu puoi utilizzare l'antenna che è sul tetto. Non mi sono spiegato, tu utilizzi quello, tutto il discorso che c'hai nel computer, nel baracchino, l'RF gain, tutto il coso, mic gain, tutte quelle funzioni che c'è nel baracchino, i filtri, i preamplificatori, eccetera, eccetera, ce l'hai dentro il computer, nella pagina del computer. Dopodiché c'è un trasmettitore che elabora tutti questi dati e li manda in antenna, tu attacchi l'antenna al computer come se stai utilizzando un baracchino, solo che tutte le funzioni ce l'hai sul computer, c'è delle funzioni allucinanti. Che cose, cioè, che sono inconcepibili vedere in una stazione fissa, perché ti appare la forma d'onda della modulazione come un oscilloscopio, poi ti dice il canale, la frequenza digitale, l'equalizzazione parametrico che ti cambia tutte le bande, ti puoi modificare la voce, cioè, l'incredibile, le cose più incredibili che esiste. E l'ho visto sul computer, è una cosa allucinante. E su che sito? Non me lo ricordo, guarda, forse su un collegamento di un sito, sono entrato su eBay e poi c'era, per avere ulteriori informazioni, entrare su questo sito. Sono entrato, io me la immaginavo che esistesse già una cosa del genere, perché per i trasmettitori FM esisteva già da un po' questa storia. Ho detto, ma sanno che non l'abbiano mai fatto per le bande amatoriali, invece ho visto, però costa 1600 euro questo scherzo, ma è micidiale, c'è una pagina di un computer, tu l'hai mai vista tu la scheda audio di un computer, come ti appare il rec dove c'è il CD, l'equalizzatore, non so se ce l'hai presente. Sì, già ce l'ho presente. C'è un rambacco io dove c'è anche l'equalizzatore, tutto quanto, potevo regolare per il karaoke. Sto parlando sul computer, le hai visti tu quando fai le concerti, le cose del genere, che lavorano adesso su tutte le bande tramite computer, non c'è più bisogno di utilizzare apparecchi esterni. Sì, ma queste cose le ho già viste e le ho viste. Ma ci ho anche parlato con il computer, per dire, e usavo anche la camera parlando, figurati, e però la passione di parlare con la parecchia ce l'ho sempre avuta. Questo per me è una cosa diversa, grazie a tutto il virtuale, questo è una cosa che tocchi, capito? Sicuramente è un altro tipo di discorso, è come dire uno c'ha una radio, un amplificatore a valvole e un altro c'ha il compact disc, per dire, è tutto un altro tipo di tecnologia, però quello lì è il futuro, secondo me. E allora è rimasto arretrato, perché 3 milioni a piazza non rispondono per una cosa del genere, con 3 milioni mi compro un'apparecchiatura di San Vito. Ma questo ti fa tutto quello che ti fa un'apparecchiatura, tu puoi prendere il migliore apparecchio HF, la Zubusirillo, Iaesu, Licom o Kenwood, questo ne ha molto ma molto di più perché è aggiornabile, cioè tu un apparecchio HF non lo puoi aggiornare, il software non si può aggiornare, mentre lì ti puoi fare qualunque modifica, cioè puoi fare quello che vuoi, puoi fare qualunque tipo di modifica, aggiungere qualunque tipo di filtro, basta inserire, aggiornare il programma, è come quando è uscito Windows, ti ricordi all'inizio era leggermente, cioè era proprio elementare, adesso c'è l'XP per dire, ed è molto più evoluto del primo Windows 95 che è uscito, ti ricordi? Io c'ho quello che programma, ho avuto anche Millennium, ma questi si buttava sempre bici, l'ho cambiato. Stiamo a riprendere a Mario, se no anche lui si trombe. Ciao Mario, riprendi tu. Ciao Robè, Gianni Drome, Gianni di Senda di. Sì. No, ma io non riesco a capire, ma l'antenna c'è un dispositivo che lo puoi attaccare al computer. Allora tu c'hai una stazione trasmittente elementare, cioè quello che ti manda il segnale in antenna, tu gli imposti la frequenza, è come che tu c'hai un lineare, l'onda lineare ti amplifica quello che esce dal baracchino, ovvero questa è la stessa cosa, però al contrario di un baracchino normale, questo gli può impostare qualunque frequenza, può trasmettere teoricamente su qualunque banda di frequenza, dopodiché gli puoi modificare la voce, gli puoi vedere la portante audio, se c'è di sub di QRM, per dire di fruscio, ci metti il filtro e te lo modifichi manualmente l'ampiezza del segnale ricevuto, puoi attenuare le frequenze di studio, puoi fare qualunque cosa, non so se l'avete mai visto voi, i campionatori che usano, gli equalizzatori parametrici che usano nelle trasmissioni, non trasmissioni, scusate, nelle amplificazioni quando fanno concerti, lavorano su tutto, ti tolgono qualunque tipo di disturbo, ti manipolano il segnale e loro poi lo mandi a un amplificatore, a un trasmettitore dove c'è collegata l'antenna e invece un'antenna. Ah, così che l'apparato ci vuole sempre però. Sì, ma solo l'apparato trasmittente, cioè tu puoi usare teoricamente anche un portatile per dire, mi hai capito? Ricordate che c'è il collegamento dell'antenna e l'ingresso digitale, quindi digitale del computer, cioè cosa devo studiare per fare un esempio, che è difficile da spiegare, cioè tu c'hai un computer, c'è un'uscita del computer con tutti questi segnali digitali e ti arriva all'ingresso del coso, cioè per me, adesso facciamo un esempio facile, dai. Tu c'hai l'autoradio e nella macchina c'hai separatamente il lettore CD, quello a 6 CD, non so se l'avete visto. Quello lì ti dà la musica, ti elabora tutto il segnale e lo manda all'autoradio o all'amplificatore, questo più o meno il principio è lo stesso. Cappa, così che l'apparato ci vuole sempre. Siccome noi non siamo radioamatori, così che quell'apparato lì non lo possiamo avere perché non dovremmo trasmettere. Noi possiamo usare solamente il ricevitore. Adesso, il discorso è quello lì, se fosse una cosa che uno può fare così, l'avrebbero già fatto tutti, ma ci vuole sempre il trasmettitore, se non c'è il trasmettitore, cioè la radio, non puoi fare niente, perché dal computer non puoi trasmettere, capito? È tutto un discorso un po' così, però non lo puoi fare, mentre che tramite il computer, puoi parlare in packet, il cosiddetto packet, cioè che tu non parli nella radio e invece scrivi, e sul monitor che c'ha l'altro corrispondente, legge tutto quanto quello che tu hai scritto, capito? E però non parla. Invece quello bello è che quando uno non deve stare lì a scrivere, a fare, parla e buonanotte, è più istintivo, capito? Non fai errori di ortografia, non fai niente perché ti parli direttamente. Mentre che con il computer devi stare attento pure a come scrivi, perché se fai gli errori poi anche i corrispondenti ti pigliano in giro, dici lì, dice se pure da scrivere il packet e non dovremmo mai che scrivere. Comunque tenete presente, questa non ci vuole proprio un trasmettitore, è una scheda che si inserisce nel computer, a cui successivamente puoi metterci anche il lineare se non ti basta con la potenza, non è un baracchino, cioè non devi attaccarci un baracchino, è una scheda, non so se l'avete mai visto nel computer quando ci vuoi mettere la radio oppure il ricevitore satellitare, qualcuno si vuole guardare il satellite nel computer oppure si vuole ascoltare la televisione o la radio, ci sono le schede che le inserisci dentro il computer e ti guardi o la TV, infatti vedi il computer mio c'è la predisposizione, c'è la scheda TV, attacco la tele e guardo la televisione dal computer, nel principio è lo stesso, solo che qua anziché lì c'è proprio l'antenna, ma la scheda di trasmissione, per dire sarà mezzo watt, 5 watt, non so che potenza sia, dopodiché li puoi attaccare un lineare e aumentare la potenza, se uno ha necessità di potenze più elevate. Guarda che sta facendo male, roba, sei Santiago 7. Come Santiago 7? Sono confortabile. Guardati il cavo dell'antenna. Davvero? Guarda, Santiago 7, sì. Aspetta un attimino che provo a guardare se sono stazionale con l'altro apparato, se no mi metto la multi in banda. Sì, lo metto un po' fa. Via. Attenta. Ma c'è la propagazione già? No, niente, di là non c'è nulla. Cavalava. E già arriva. Adesso quanto stai scendendo, Luca? Adesso è giusto. Allora, stazionale non ho, sono a 1 e 2 di stazionale, sono con quello grande, con il microfono portato. E boh, vabbè, forse c'è molto. tanta differenza da quel, dal portatile da questo, boh, strano. Boh, non lo so. Sicuramente è problema di massa, perché spariva il segnale. No, non lo so cosa è successo. Io la notte ho trasmesso sempre con quello, col portatile. Come è andato il cavo, tutto a posto, l'ho collegato dal coso, non si sono trasferenza, ho detto, ma è detto dando alla gara il coso, il PL, ma è tutto a posto, fa solo 1 e 2, anche più basso del normale come stazionare. Da arrivare al PL. Da arrivare al PL. KK. No, io qua ti controllato, tutto a posto. Nervo in corto. Ho staccato il PL, il cavo ce l'ho buttato, l'ho rifatto nuovo. Adesso bombo. Magari era la lampada di subito anche poi non mi dica. Ehi, è che mi metti di fare facile a farli bene, non è facile, mi ha saperli fare. Io diciamo che mi arrangio, ma non è che usivano bene, ma mi arrangio, però bisogna saperli fare bene già, capito? Bisogna sempre distanziare, sempre, dal polo caldo al polo freddo. E se tu prendi la gomma del polo caldo, la fai molto corta, quando tu la avvitti, sei buttito. Buon tempo a caso. Io ne ho fatto 1000 di piede, non... Sono sotto la bene, quello lì perché non entrava là sopra, tu hai già preso il corpo che non entrava, quello che ho fatto io. Adesso faceva la buco troppo stretto, quindi non entrava, per quello che l'ho fatto così. Già ne ho fatto 1000 e mi sei sbagliato. Sì, guardate, era raro, ma non è, faccio volare, sugli amici. Ma che sbagliare umano, ma cavolo, su una cosa del genere, già, si fa, mi ricordo in 10 secondi, piano piano, certo, cioè, 10 secondi di ricordo, non piano piano, ma adesso come si fanno, capito? Bisogna lasciare sempre un pezzo di plastica in più, sempre, se no farli a pari a casa, a calzare la massa, diciamo, mai, sempre potenza in più, già è per il PL. Oh Luca, a me prova, io sono col portatile, ma il PL è tutto a posto, forse è questo qui che sta prendendo colpi, com'è? Adesso va bene. Oh, non capisco cosa sia successo, perché stazionaria non ce n'era, sono 1 e 2, perché l'altra volta c'avevo il PL in corto, bagnato di acqua, forse c'è entrata umidità, ho detto forse la pioggia, però è tutto a posto qua. Ma sì, va bene. Boh, l'ho rifissato bene, c'ho l'innesto rapido io qua nel portatile, per cui il cavo è sempre lo stesso. Dimmi, Fabio, mi hai sentito? Come va tu? Vabbè, tu sei attaccato. No, non lo sento. E arrivi a bomba qua. Luca, non lo senti a Fabio? No, negativo, se mi ascoltano io non lo sento nulla, nulla. Tu già lo ascolti. Che a bomba, fortissimo. Questa è la vicina a te, vabbè. Qua va, passisci. Fabio, mi senti? Fabio, li senti allora? No, ma cosa c'è? Un antenino piccolino c'hai? Cioè? Sei in movimento tu? Ah, ma dico, sei in movimento, dico, sei in macchina, non sei in casa. Adesso ti stai un po' indebolendo comunque. Sei sempre forte, però rispetto a prima c'è un po' di fruscio. E che portati lei questo? Dov'è Robè? Non lo so, dove sei Fabio? Ti avuglia, sei attaccato allora. No, piazza dei segni Luca, No, qua non arriva. Non so se mi ascolta lui, ma non lo sento. Dice che con un portatile, Luca, con l'antenino piccolino e come si chiama, e con le batterie pure scariche c'ha. Cappa. Ma a me mi ascolta lui. Fabio, lo ascolti a Luca. Nessuno ascolta, neanche a Mario e a Gianni. Dicendo che portatile che matta è. Cappa, cappa. No, già sta uscendo. Vabbè, sei vicino, comunque sta uscendo benissimo. Io col mio, quanti quattro tira fuori con l'apparecchio? 500. Come il mio più o meno 3 watt e mezzo, cioè dice 5 però tira fuori 3 watt e mezzo. Luca mi ascoltava, non è vero Luca che tu mi ascoltavi con l'antenino suo, e lui Luca abita giù al monte, cioè zona bassa. Coppa, ma a me non mi ascolta lui. Cioè che non sente nessuno, fate un passaggio, riprova Mario tu se ti ascolta. Sì, mi piace la stazione allora. Attento Fabio, se ascolti qua, cambio. Fabio, non è seduta Mario? No, vabbè, io ti ascolto bene, benissimo, però loro non riescono a prenderti, a tirarti fuori. Ehi, io non vedo che tu la cosa vera, vedrai sotto a casa lui. Ma come se ne va a garraffa? Io non lo vedevo, allora sto qui di accuso, quando vi mettete ad ascoltare a Luca o a Pompogno, la famiglia non accusava nessuno, allora attacca da me, cosa vuoi dire voi? Oh, padì, no. Ma strano non ci ascolta lui, è molto strano. Non so, ma ci vuole dentro la macchina, dì la faccia della macchina, vedi? è dentro la macchina, l'avevo preso, lasciatelo parlare, cosa sta dicendo Fabio? Ma ha detto che saluta a tutti, Luca, Mario e Gianni, quando rientra a casa. Gappa, gappa, a dopo, gappa. Cosa cambiare i saluti, Fabio? Gianni, tu devi parlare, sennò ti addormenti. Non male, Robert, mi sento male. Scusa, non ho capito. C'è il live di Gianni, della Glucca. Sono andato, siamo a distanza, strano. Non hai preso qualche colpo di freddo, stai attento qui, che non c'è da scherzare. Io stamattina ho portato la bambina all'asilo, perfetta, bellissima, contenta, allegra. Aveva la febbre altissima, di colpo. Allora, siamo in sinfonia, siamo già. Che stai scegliendo? E allora, è così, perché anche la mia camera era così l'altro giorno. E allora, tu gli hai venuto la febbre. Stamattina ha portato la piccolina Michela all'asilo, tutta bella, tranquilla, contenta, sorridente. Mi chiamano verso l'una, mezzogiorno e mezza, avevi appena la bambina stava male, che aveva ogni febbre, l'ho trovata addormentata nel banco, coricata nel banco, distrutta, a pizzi. Appena arrivata a casa si è drumita. E le ha preso una febbre così di colpo, senza motivo. E una tachipirina che faccia del tuo. E ancora non sta bene ancora, me l'abbiamo messa la tachipirina, gliel'ha abbassata, però non lo so, l'ha presa così veramente di colpo, perché sto dicendo gli è aumentata la febbre nell'arco di un paio d'ore. E adesso è questo virus puzzinosi che ci sono in giro. Comunque quello del mal di stomaco è successo anche a me, ti dura una giornata e poi ti basta. Anche a mia figlia mi sta dicendo meno giorni, anche a lei è successo. Un paio di volte, un paio di giorni massimo ti dura e poi finisce. Non è grave tu, Lucia. Quando mi ha la bru, fammi gravare anche bene. Che cosa l'hai? Ciu-ciu! Mamma! Riciclo ce l'hai? Riciclo? No, non mi ciclo, c'ha lui. Niente, se il ciclo ce l'hai giusto. Se l'hai giocato un fuffi in altro fuoco. Donna, di sa, se non mi vede, c'ha un emiciclo. Addirittura, Luca, buonasera. Oh, Gianni. Dati salti a Falcone, lui. Adesso faccio un altro quadrato. Addirittura. Saluti a Falcone, grazie, contraccambio da parte tua. Ma signor Gignari che fa? Ah. Un macco, guardate mio, cazzo, che tu terra. Ma il mio... Che manca, faccio qualche cosa. C'è qualche cosa nascosta. La frica, eh? Sì, se l'ha fatto vedere l'antenna dove già. Non capisco il segnale, guarda il segnale, guardalo adesso, guarda da così, eccomi, è così che sarà, tu non mi piace, dammi l'ultimo passetto, aspetta così bene va, aspetta che siamo qui. Che gioco a me adesso? Ma vecchi punti della fuoco ci hanno disfregati? Sant'Enna, almeno non ando, no. Allora, qui c'è la pagoda, 43 euro, pigliata e comprata. Bravo, sì, come si può se quella vecchia chiusa dal 2001 la stessa presa abbiamo un pallo di lì? No, non sta scherzando, però la pagoda è la base, cioè la pagoda. Sì, quella che c'ho io è una 58 con un sacco di ricezione e tutto. Se ti stai dicendo, camminando da produttore e parlando con la spada. Perfetto. Ah, che bella comunque. A parte ti scusi. Mi ha accompagnato sino a Sassa di questo spagnolo. Ci sono sempre quelle antenne comunque su B. Flipper. Ma ascolta già Flipper. Non ti ascolta, lo senti alla mazza quadrata? No, oggi lo sentivo bene, ma non fa parte del suo centro. Ehi, se vuoi rovinare, se vuoi la condizione da solo, vedi che ha fatto è un'altra stanza già, non la giunga da qua, mi sto guardando un pezzo di partita della finale, la fine della partita del Cagliari, allo stesso tempo sto parlando con voi. E non mi ascolta, la sali mi ascoltava basso, adesso neanche basso. Beh, non te la puoi fare una prolunga, la camera là. Che c'è una prolunga, infatti sto utilizzando la prolunga. il lattatore in base l'ho messo dall'altra parte, è troppo grande, non la posso tenere qua nella camera dei bambini, non c'è spazio, cioè dovrei togliere il computer. Ma il Midland attacca la del 20, Roberto. Ma il Midland c'è il problema del coso, del mulino dei ventanori e tutto, e devi portarti il microfono in mano, e questo invece è fatto tutto con un ricamano. Io l'ho sfuggito per così, ma non mi c'è chiamato la mente. Mi dai, tranquillo il mondo. Ieri se la pagoda l'ha presa Luca Flippa, io lo sento bene a lui, cioè se l'ha giudicata. Ehi, l'ha già presa. Oh Luca, ma come fa a fare la pagoda? È alta 2 metri in alluminio e c'ha 3 discoli di rame, capito? C'ha 3 discoli di rame, il diametro dei discoli non lo so perché la misura dei discoli non c'era, però c'era il tesserante e ne ha 2 metri. E quanto faccio un budulino e uno? Quanto stavo dicendo? Come ti arriva? Ce l'ho fatta ieri, la ricarica dovrebbe arrivare un paio di giorni io penso. Speriamo sia la ritiera. Io ho guardato e tutti dicono che è una buonissima antenna, innovativa, capito? Ma cosa la ci portava? Lui? Ciao, ma non sarà come quell'ordine che ha fatto Gianni, no, per caso? No, no. È un negozio questo, ciao Tino. È sempre messo il coltello nella piaga. E gringri di un pantone. Va bene, Tino. Buonasera, stavo pensando, va bene. Io lo so, non c'è problema. E vabbè, io ne ho preso una di fregatura, in vita mia non ne ho mai preso. L'unica che ho preso è questa qua. Però, grossa, almeno grossa, di questo valore qua, non ne avevo mai preso. Ma, tutte queste esperienze, capito? C'è gente che l'ha presa di milioni, di miliardi, almeno io l'ho presa di 200 euro, so. Vabbè, ho già, sai cosa ti dico, ognuno ha sua, quindi chi dice che non è stato mai fregato non è vero, perché c'è sempre qualcuno che l'ha lasciata più lunga di lui, quindi... Politici. Cos'è lui? I politici. Ah, vabbè, quelli, quelli lasciano più lunga di noi, quindi... Cane morto, già mi vendico quando c'è le latte. Ciao, ciao, ti buonanotte. Guarda, non lo so, vabbè, io rientrerò Vabbè. Comunque qualcuno non stava sotto molto basso, sentivo, io non so se l'avete sentito voi. A me vabbè. No, no, Tino, tu c'è la bomba, uno sentivo quando parlavi tu sotto, uno basso basso. Con polio, non lo so, ma ora interessi tutti salutati. Pompo, per polio. Ah, un'altra cosa, oh Mario. Sì, no. Ma nel caso che tu rientri in tasti, cosa faccio? Lo metto in freezer, cosa faccio? Di strano, no? Di pesante, che ti ha, che c'era qualcosa di avariato in mezzo? No, non ho mangiato roba pesante. A pranzo ho mangiato pasta con sugo, un pezzo di pollo, figurate quanto faccio le pesante e un arancio, fatto il gioco. E infatti abbiamo detto, ho mangiato una pastettina, no, non ne ho voglia. E non c'è, stava già cominciando a partire, cioè, strano. Sciaffa. E Luca, ma ne come sei ancora? Luca, sì. Grande. E sai che tu ti hai pesato la malattia dei polli. Sì, mi tocco le gingille. Ma perché hai mangiato pollo? No. Io la mangio spesso, non ho di questi problemi. Mangio uccelli, pollo, gallinacci e tutto andare. Per i garri, mi posso mandare la fettina di cavallo fine come fatta come dico io, se no non mangio nient'altro, solo pollo o come si chiama, o il pesce. No, io sono carnivoro, contrario di te. La carne di cavallo mi piace grossa, fino a 9 miliardi, perché mi ha la di loro. Se la farà fino a un macellaio, le ho da faccia, a me piace tutto grosso, però spesso, specialmente con il cavallo, dopo su cosa, io solo di scarpe cotta a me e bollettine vine proprio per mangiarla, se no niente, e poi mangio la canna di pollo e il salsiccione quando è cotto bene fino così mi piace, se no maiale neanche a vederne, agnello idem. Prova a mangiare la canna di maiale, le bracciole fatte con l'aglio, con soffritto di aglio, ma uso un moro. No, guarda, non ho mai avuto il piacere, ma non mi attira a me la carne, te lo posso garantire. Io li vedo quando fanno il pasto di sardi, quello il porcetto sardo sotto la terra, eccetera, eccetera. Mi viene voglia, però non lasciamo perdere. Così la pecora, l'asinello, non mi attira assolutamente. Se no non è buona la pecora nostra, no? Ma ti lascia stare la carne per la prima. No. farla, no? La carne io non vado molto d'accordo. Il pesce sì, posso mangiare quasi tutti i tipi di pesce, ma a garre nulla. Sì, vabbè, dipende dai gusti, ma... Ma, mi senti qua, è un'altra sorella. Gappa, gappa. Ehi, vabbè. E così, no, ma... Sono gli uccelli emigratori, non c'entra niente, paduro, non paduro, nulla. Gli uccelli emigratori dice che bisogna stare un bel attenti. Tipo tu, di... anatre, roba così, dice bisogna stare un bel attenti perché ne stanno trovando un bel morte. No, la quaglia è... non è migratore, è un uccello che cammina per terra, si fa le tane e via dicendo. Le paglie dovrebbero essere buone. E poi sono di allevamento, quella che mangio io, non so di cosa servirà. Paolino, non è andato che sei a mangiare la quaglia alla piazzetta? No. Non è lì che vengono, ti affilano come sono cotte col forno, con la legna, che lo schiedo che gira, le lì che fa i cereali facendo le cose. Ehi, ma non l'ha comprato, comprato il pollo lì, la patatina, però faccio le quaglie no. Ma dice, io non le ho mai mangiate, però l'aspetto ti affilano. Sì, il sapore sì, sarà buono, sì. Fatto con la loro. Sì, ma come sta presentoso, mi ha portato il libro e vorrà leggere sempre per favore. Deve essere che anche lui si sente un po' trascurato forse da me, capito? Perché se la baracchina magari io vorrebbe giocare. Così mi dice, è sempre attaccato le bambine, sei sempre attaccato a questo baracchino, sempre break su 5, break su qua. Ma te ha detto già piano piano quando migliorano le giornate, dice mi porti in giro in bicicletta. Anche a me mi dice, che baracchini schifosi, mi dice, ma ancora non me l'ha detto, però sono un po' così, già ci rimangono male, diciamo vorrebbero più attenzione, dai. No, ma Marco già sta vicino a me, capito? Ci mette vicino a me, lo cocco, lo faccio. Però mi inizio di leggere un nuovo libro di favole, non lo so, alla fine mi incazzo perché non ho voglia e dopo che mi hanno letto il mio stile, non è di quelle registrate, cioè di mettere il registratore, se gliene mandi registrate. Se non è la stessa cosa, lui la può sentire raccontare da me. Te la registri tu e gliela mandi nel corso. Poverino, guarda, tutte le scogliziamo sotto portare la parola. A volte mi viene cosa di dire la sera magari in momento, sono poco loro, poi la frenesia di trovare a lui e cosa. Non riesco mai a. Non me ne penso mica una parte, però non lo so tanto, mi piace. E non so, una droga di sta cosa. Adesso fa poco anche mia moglie, mi piglia. Perché dice che lascia sempre sola. Mia moglie lavora, cosa fa? Casalinga o lavora? Ma mia moglie ha lavorato per 7 anni alla Cosma Librale, come ragioniera. Adesso ha fallito. Ha fallita? Aspetta, la conosci uno che lavorava lì, aspetta come si chiama? Piero. E mia moglie lo conosco. Chi c'era? Aspetta un attimino. Vabbè, tutta la famiglia io conosco di quelli lì. Con la, stiamo parlando con la T il nome, no? Che la moglie si chiama Antonella. Il nome non me lo ricordo, ma li conosciamo tutta la famiglia perché fratello Graziano, Massimo, non so se li conosce. E io non me lo conosco, però non mi ricordo come si chiama. Avanti, buonasera, ciao Gianni, ciao Roberto, Salvatore. Come Salvatore? Come se non mi pare bastarci. Ehi, capo. Non bene, cazzo mi fa male, ho detto invece che come stavo parlando con gli impresari mi ha preso qualche corrente corrente, mi sta iniziando a puntuzzare. Adesso se mi continua male metto in luce, tanto è vero. E lui, Giuli, tu eri Roberto? Non c'è anche Luca in ascolto, ma stasera un po' morta perché ormai dovrò andare a casa, di qui ha ragione, ma qua c'è una sala di presto. Così male questa nausea, mal di stomaco, ma che io ti sto dicendo che sono rientrato, stavo limitato questa pizza, fa male, non lì che è sotto la mandibola, ma invece come stavo guardando, detto, quando sei arrivato tu, c'è la corrente, avrei pizzicato qualche cosa. Speriamo che mi calmi, insomma, vabbè, mi prendo qualche cosa fra poco, adesso vediamo. Ciao, non mi riprendi. Ciao, Salvatore, mi senti un occhio all'orecchio che non ce la si alzare, soprattutto la notte, mi. Se tu non riesci a dormire, domani sei a pizzi. Ma sì, Roberto, non temo io, mamma mia, guarda, una notte ho avuto un pizzo, mamma, mai me li ricordassi. Ma un dolore che lì non è andato al pronto soccorso, perché aveva detto io che pescato, era un inizio antidepressante, ma il dolore, Roberto, guarda, era... Ci andava un chiodo in testa, ho fatto una cura, mi hanno fatto fare il sole, grazie a Dio, poi mi è passato. Ma adesso basta un niente che mi spavento, sicuramente però qualche cosa c'è, perché mi tocco mi fa già male. Adesso vedo, se no fra poco scende mi prendo qualche cosa. Ok, cos'è, chiacchierando? Sì, mi farò vedere del meno per rilassarsi un po'. Sì, però fatto di tutto, niente da dire, cosa vuoi dire? Come ci hanno, come ci hanno, come ci hanno, la mettono molto, la mettono a casa là. appeso. E qua ci metto, lo uso io, non devo metterle sopra, io le metto tutte dentro i fitti che quando devo uscire uso, le metto dentro il mezzo, non le uso, anzi, io prima le volevo anche tu, gli ho detto, no, lascia stare che mi servono per fare una modifica. Ah, lo metto lì, l'ha fatto, lo metto sopra dove c'è il fettuccio, che c'è una specie di ripostiglio, adesso devo riuscire a collegarmi all'impianto elettrico. La base magnetica, no, buca della capota non conviene assolutamente. Sai cos'è? Che questa base magnetica, ho l'impressione che aumenta l'altro cesca, perché non so fino a quanto, a che velocità può reggere. Io ce l'ho una grossa nella mia macchina, ma non 300 ho paura di abituare e rimango sempre in attenzione. Guarda, io ho visto le prove di queste basi magnetiche, non per il coso, per il portabagagli, hanno fatto una prova, l'hanno messa sulla Ferrari, per fare l'esempio, sono andati in pista e hanno provato a 200 km orari, naturalmente senza il carico, senza niente, e ha tenuto fino a 200 km, cioè a 200, a 200 loro sono arrivati, poi non hanno fatto le prove a quanto si staccasse, però hanno fatto la prova fino a 200 km orari. È così? No, ma sai così? Veramente, un giorno devo fare anche una prova, voglio avere, intanto al limite, ma sto attento, voglio avere finché è resistente, ma la mia è abbastanza grossa, non è la base magnetica di quella, è quella della CPE, è abbastanza grande, quindi dovrebbe resistere. Sì, certo che se così metto la base e non torni a bucare, non fare niente, non farne staffa, quando non la voglio, stacco tutto e faccio prima, adesso vedo. Voglio vedere che adesso non si trova niente, prima andava la grassa e trovavo tutto, adesso mi pare manca base magnetica che c'ha grassa io già. I più già ci dovrebbero essere, ho visto che c'era la qualche antenna della CTE. Dove Robert? Alla GBC ho detto, dovrebbero avere qualcosa, ho visto che è rimasto qualcosa di queste antenne, per qualche camionista già l'ho visto comprare in vetrina, c'era qualcosa. Non ve dice per i guadagni. Non lo so. Beh, la leva fa sempre delle buone antenne, perché l'altro 2001 non aveva l'antenna della leva. Sì, non solo se della LEM. La gran pericola che ho dato a Coso, ad Antonio, ho prestato ad Antonio della LEM, e se la vede la costruzione è fatta veramente bene. Buonasera. Ciao Roberto. Ciao Roberto, ben sentito. Ciao Roberto, ben sentito. Ciao Salvatore, ti sento Mario Mario. Io ti sento 4-0, mi copri Roberto. Sono in valle, fammi uscire. Io ti sento sempre bene. Arrivi benissimo, Roberto. Io sono Salvatore, sicuramente legato per la mia zona. Sono sulla strada Scuola Veloce, in giro di Sassari. Me come mi ascolti, sono col portatile. No, con la radio ti sento bene, vieni avanti, ti do un segnale. Modo 3 prova 30, 40, 50. Come per favore? Beh, intorno ai 6, 7 ti sento. Roberto. Dimma. E adesso mi copri meglio? Adesso ti ascolto bene, aspetta che butto la cenere. Vabbè, sto trappando già. No, vai a te. Perché ho trovato un po'. Ok, no, c'ho quel catalogo però, Sì. Sì, lo sai quale stai dicendo tu, la quarantena stai dicendo, Ugia? La quella che sembra la matrova stai dicendo? Sì. Alla Super 16, la Super M58 dovrebbe essere. Salvato quella grossa, 8 metri e mezzo, c'ha 9 decibeli, guarda, la più grande di tutti, che c'ha una decina di radiali, 10-15 radiali. E la Super 16 dovrebbe essere, sì, 9 decibeli guadagno, 8 metri, sì, e sta sognando, ma vabbè. Basta, faccio anch'io quel catalogo, no, ci sono belle antenne, ci sono direttive, di tutto, c'ho anch'io quelle, da fusare, guarda, la Gran Pre, piccolina l'ho presa di lì. Infatti mi ha detto, se voi ti ordino con la grande di 8 metri, e poi ho detto, lasciamo perdere, io ho preso così un po' di soldi con la 8 metri. Sì, cos'è quale mi sarebbe piaciuto provare? Questa, la Ringo M. La coso, come si chiama, caricata interna. Questa che sape che sta con sé, ora già mi sento, se ho un peranio. Questa che c'è scritto, Ringo M. Quella che c'è la carica dentro una specie di involucro, quella lì sta dicendo. Che c'è una specie, diciamo, è uno stilo con al centro da fare fondo, là, è una carica tonda. Non so se c'è il catalogo da fare di qua. Sì, ho capito, non ce l'ho presente, cioè non ce l'ho qua il catalogo davanti, però ho capito. No, secondo me le LIME sono belle antenne, fatte bene. Come sono fatte bene quelle della CTE, io ho la multibanda micidiale come costruzione, non avevo mai visto antenne fatte in quel modo. Penso fusione di ottone con tutti gli stili in acciaio inossidabile, tutte le viti in acciaio inossidabile. E manco visino alla Mantova come costruzione, la Mantova secondo me è un'antenna molto molto economica, c'ha un bel rendimento ma qualitativamente scadente. No, comunque c'ha un bel rendimento, una delle più che affermate la Mantova, ha indovinato tutto, tanto è vero, ha solo anche rimpiangendo, porca miseria. Se fosse stato vedere come rendimento, come materiale non avrebbe durato 30 anni. Ma adesso mi senti, stava... Sei arrivato a Sassari, 2-3 km. Adesso sei a fondo scala, stai arrivando bene. Sì, stai arrivando bene. No, ma poco fa ho fatto la prova, ma lo stacca, no, meglio che stacca, insomma, non fa una palla il casco, magari. No, adesso lei ha le caratteristiche della quella che c'ha Gianni, non vera, 2001. Sì, 6 decibel di guadagno, cioè è micidiale, non ce n'è neanche una di antenna di coso con quelle prestazioni. Io ho visto anche quelle della CTE di altre marche, tutti sui 3 decibel, sono 3 decibel e mezzo e basta. Ma è lunga 2 metri, ecco perché, cioè, ma avete questa prestazione, ma trova tutto. Sì, è micidiale, infatti, però io ho visto anche antenne di quelle lunghezze, magari 1,80 m, 1,70 m, però sono tutte sui 3 decibel, quella lì è una 5/8 quella di coso, di Gianni. Sì. Tu Roberto quale c'hai? Roberto, cosa c'hai tu perché? Io ho l'antenna speciale, non so che tipo di antenna sia, da ora lo incrocio tra una spinaporta e un battiscoppa. Una bocca di antenna, va Giuseppe, va là. Ma stai levando bene, guarda, c'è una bucaria, ma è una signora bucaria, stai levando bene. Roberto, conosci le Vimmer, se no, come antenne? Soprattutto che non siano la mezza boiata tipo quelle QA, cos'erano quelle? HB? 3 decibel di guadagno, 1,10 m di altezza, però mi manca la base, mi devono dare la base, cioè mi devono dare, me la recupera, perché me l'ha data senza base, quello ha versato la macchina, la base è rimasta attaccata alla macchina, però chi ce l'aveva il Mercedes dice rendeva parecchio. Ma nella macchina, Salvatore? Come no, Roberto? Nella macchina? Come sento? Se sono in macchina? No, ti ho detto, antenne per la macchina. Sì, no, siccome devo mettermene una nel mezzo anch'io, no? Non sai cosa che ti sposta. Adesso che mettiamo una prendo la 2001, visto che è così alto, che quella che con i giami va benissimo e così non ci sbagliamo. Voglio una di quelle, cos'è la mia? Boh, una Boston mi pare, di quelle 30 centimetri e va, almeno così sembra. Tutti con i suoi va bene. No, va bene, devi dire, dove si è messo tutte esattamente? Adesso ho scordato con la scia, per andare dentro la scia, salì. Passate, ragazzi, io sono qua, non è che siamo lontani, ma non siamo neanche vicini. Ma questa qua va bene, questa ce l'ho, poi questa qui è nuova, ce l'ho da poco, mi pare ce l'avrò 22 anni. No, va bene, va bene. No, ma questo non è che la vive, Fabio, se capita Roberto qua là, se ce la facciamo con un passo, con un dettagliano e un catalogo abbastanza grosso. Dico di cosa sta parlando, della LEM o di che cosa? Della Vimmer, antenne Vimmer. Oh, sto scendendo, ci sentiamo un altro momento, ciao a tutti. Ciao Roberto, ma sentite. Ciao Roberto, ci sentiamo. Vai Roberto, ti saluto e poi ti dico questo catalogo. Ciao Roberto, alle prossime, faccio. Riprendi sabato. Ah, il contenente è conosciuto, è vero, fa una gamma molto ampia, deve avere le parte, quanti posso dire, fa una gamma del 27 molto ampia, poi fa una gamma 144, 430, poi serie a discone, per parte per anche le prestazioni fisse per radio telefono, poi fa che cosa per cancello, antenna fissa da 43 MHz, antenna fissa da 50 MHz, una gamma grossa, e qua non sono rappresentate Ci sono le figure, le antenne, non ci sono? Ah, se ci sono disegnate, come quello della capella Lerbe lo stesso, ci sono, per esempio fa la 7000, per esempio, un'antenna da mezz'onda, potenza massima 1000 watt, impedenza, guadagno 6,2, altezza 5 metri, tipo, quanti posso dire, tipo quell'arrivo che ti stavo dicendo. Non è fallo. Cos'è, una ditta italiana o che cos'è, tedesca, cos'è? No, italiana. Sì, italiana, per esempio fa tipo la Mantova anche qui, no? Sempre con i radiali, con la specie di molla centrale, però alla fine in punta c'ha altre 4 radiali. Quindi è un progetto totalmente diverso. No, la Mantova, io ho visto quelle come la Mantova ne fanno un sacco di ditte. Però l'unica antenna rivoluzionaria, infatti voleva avere notizie, quella che si dovrà prendere Luca Flipper, quella la conosci, la Pagoda, quella che ha 3 disconi e a scalare partono dalla cima piccolino, uno un po' più grande e uno dalla base enorme, a disconi, è un'antenna di 2 metri e ha 5 decibel di guadagno. Ma ne ho visti anche su eBay, già ne ha visto anche lui, vero già? Me la dovevo comprare io, poi alla fine è capitata l'occasione del conto della Mantova 5, ho detto lasciamo perdere, l'ha creato la chiusa, ce l'hanno tutti e funziona. Però quella lì avrei voluto capire come funziona, adesso che c'è la Luca ci renderemo conto del rendimento, visto che lui è una posizione un po' scomoda rispetto a me. Ma non la può mettere la qui sul tetto, va? Come già? Che non la può mettere sul tetto? Luca, per quanto renda, non rende mai come dovrebbe perché non è sul tetto. Sì, ma facciamo un confronto con l'antenna che c'è adesso, vediamo quanto migliora, perché abbiamo un'indicazione, cioè lui oggi è con questa antenna, tra una settimana proverà l'altra e vediamo quanto ha migliorato. Io sicuramente ho migliorato rispetto alla Grand Plane, ve ne siete accorti tutti quando c'avevo la Grand Plane, la piccolina, la multima della Grand Plane c'hanno lo stesso rendimento, però con la Mantova ho migliorato parecchio. Vabbè, c'è anche il catalogo delle Sirio, potrebbe passare, se la prima fase, ogni tanto me le mandano. Io sono tutta la gamma della Sirio, cioè la Pagoda, che ce la fa questa Pagoda? Perché c'è la Sirio Stars, che è una persona un po' strana. poi c'è quella che si assomiglia un po' alla Mantova, si chiama la Sirio 8-27, la Sirio 26 voglio dire, scusate, che è lo stesso, c'ha guadagno, 16 di guadagno, e lo stesso un ciclo tappi. Ma però l'antenna, almeno se sono così tiere, e quei guadagni, quel guadagno più alto che ho visto di antenna verticale c'è la LEM, quella da 8 metri, c'ha 9 decibel di guadagno. Sì, no, aspetta, ti voglio una cosa, che c'ho anche il catalogo della Sigma, quella che fa l'antenna che c'è in questo, voglio una cosa, perché le stavo facendo anche un'altra la Sigma. Secondo me la Sigma sta vivendo negli alluri, questa Mantova da tanti anni esiste, 20 anni, è sempre 20 anni per lo stesso progetto, non ho visto altre modifiche, almeno, mentre la CTE, l'antenna adesso ha tirato fuori questa pagoda, è un progetto rivoluzionario. Aspetta, la Sigma ha tirato fuori la Simpli-27 adesso. Si chiama? Simpli con la Y, gradienti finale, 27, è una mezz'onda. Non c'è né radiale né niente, vediamo un po' quanto c'ha di guadagno, allora 26-28, 500 watt, 4, è lunga 4,85, è mezz'onda, è mezz'onda, ma non mi dai guadagni, non mi fa dare i guadagni. Mentre sulla Mantova Turbo, sì, abbiamo la Mantova Turbo per altro di guadagno, c'ha mezzo decibel in più della Mantova 5, la Mantova 5 c'ha 7 decibel e mezzo mi sembra, e la 1 mi sembra c'ha 7 decibel. Mantova 5 7 dB e sono uguali, Mantova 1 e Mantova 2 sono uguali, pensa che quelli hanno i radiali in vetrolese, la Turbo c'ha tutto la lunga. La Turbo, almeno da come mi stava dicendo Claudio, c'ha qualche guadagno in più in ricezione, a livello di trasmissione siamo lì. E ne posso avere la conferma perché c'è Fabio che trasmette qua a fianco a me, e addirittura lui è un po' più vicino di me, a Claudio e arrivo meglio io. Dice Claudio le arrivo appena meglio io, però siamo quasi uguali come segnale. Lui c'ha la Mantova 1 e lui c'ha la Mantova Turbo. Sì, è vero. Quella della Sirio, che è uguale alla Mantova addirittura era trasparente, però effettivamente i risultati erano migliori di quelli che avevamo trovato prima. Poi che cosa avevo provato? Però ho provato anche un'antenna, diciamo, da terrazzo, ecco, era così, sempre della CTE, e poi basta, diciamo, e poi ho preso questa cagazza di multibanda che poi sono riuscito a aggiustare, ma prima o poi me la butto giù. Tu stai uscendo con la multibanda adesso? Allora, ho applicato a voi, fatturando in curata che potevo prendere robe. Aspetta, sta uscendo benissimo. Ma dimmi, non è quella della CTE, non è quella da 25 a 1300 della CTE, non è quella, no? Ma negativo, piccata a voi, non so se è così, un'azienda che cosa si vanta di fare delle buste di antenne, si vanta, e queste però preso un'intrusione enorme, sono riuscito a aggiustarla leggermente facendo alcune modifiche che mi ha detto lui, altre così che mi ha detto altra gente, ma ancora non sono contento, appena è nella butto giù e si mette un po' avanti, ma forse mi ha avanti, perché intanto se vai a fare ascolto sulle altre frequenze, perché su ascolto posso fare, intanto si butta dentro QRM che è una bellezza, non riesci a scoprire le orecchie a rompere. Caffa, come è configurata? Tipo la Grand Plane o tipo una o verticale tipo una Mantova? Che forma c'ha questa antenna di che c'hai tu, questa multibanda? È come la Mantova, identica alla Mantova, lunga verso su quanto la Mantova, come la Mantova, ovviamente lo stesso, radiali invece di avere un radiale ce ne ha solo 4, il valum qui direttamente esce da lì, attacca il valum che dovrebbe servire per le varie frequenze. Quindi ti fa, cioè l'intrasmissione teoricamente dove può lavorare con l'antenna? Dovrebbe lavorare della 30. Aspetta, e beh, perché non ti piace? Perché troppo QRM c'hai l'eccezione. Sì, QRM è andato, poi devo lavorare con il l'accordatore che vuoi ci offrire a accordare, con un problema, rientrata in frequenza, guarda, il primo periodo io non so se te lo ricordo, non stavo sempre partendo, poi abbiamo fatto un paio di modifiche, ovviamente da lui, perché io l'ho chiamato, perché l'ho pagato 268 euro, l'ho già pagato a un franco, però me ne sono pentito dopo. Dopo averlo chiamato un paio di volte, mi ha detto di fare un paio di modifiche, le ho fatte, adesso va migliorato, diciamo. No, da parte mia il segnale tu è un segnalone, arrivi, non dico che arrivi come questi qua che c'ho vicino, tipo la Debussy di Natalino, quelli più forti, dai, però c'è un segnale, adesso non me lo ricordo quanto, ma tu superi il 9, sarai 9.15 qua, sicuramente, c'è un ottimo segnale. Sì, adesso, però per quello che costa, vabbè, non ne vale la pena. Senz'altro con un po' di più attenzione e tenendo in giro avrei potuto prendere qualche altra cosa. Sono stato troppo avveduto, mi sono tirato del 9, un po' perché stavo così, vogliamo delle riviste qualche cosa specializzate, questo nome PKV, e l'ho chiamato, mi ha coinvolto, mi ha convinto e niente. Le antenne quelle della H. No, ma come costa così tanto questa antenna? Cos'è artigianale questa che c'hai tu? Da tutte le multibanda costano così, sono tutti che vanno su quelle cifre lì, vanno. Però a me non funzionassero, ecco. Per lo meno questa, per quello che costava, non funzionava bene. Si poteva, speravo molto in meglio. Ma ci sono quelle delle altre, non so se le hai viste, le pubblicità sulle riviste tipo Radio City, che sono una novità. E io l'ho chiamato, ho detto, ma sono piccole, sono antenne che vanno bene, meno male che non sono caduto lì, se no per prendere 4 antenne, perché quelle fanno frequenze fisse, no? Fanno, non so, 27, per trascoltare 40 metri, 80 metri, ecco, per fare quelle lì ci volevano quasi 500 euro. Sì, era bassa, no, non stiamo parlando di cifre troppo esagerate, no, non è per le mie tasche, no. Io mi ho preso per ascoltare una multibanda della CTE, che ti posso dire a livello costruttivo non ha uguali, non avevo mai visto antenne fatte in quel modo lì. È piccolina, non è molto ingombrante, c'ha tipo simile al Grand Prix, però con i radiali in acciaio inossidabile di diverse misure, e la parte centrale, lo stilo centrale è accordabile. C'ha di stazionare in trasmissione anche nella, siccome c'ha di mono che trasmette da 20 MHz fino ai 1300 MHz si trasmette, e in ricezione la stessa cosa, dai 20 fino ai 1300, e quello gliel'ho presa, ho pagato a 50 euro la GBC e funziona tutto bene. No, ma c'è che io, cioè, non mi sembra che quella la macchina, la città, ma c'è una signora azienda che fa, che costruisce, funziona che sia una delle prime, adesso un po' ammollato anche lei, perché prima era molto più pericolosa, le frequenze, ma c'è solo, infatti, per esempio, se capita che ci il catalogo della Marcucci, lo stesso fa, come se sono delle antenne anche loro verticali, ma poi dipende che cosa vuol mettersi, certo se uno avesse la licenza e deve anche trasmettere su antenne, o fosse direttamente su di fuori oppure verso le antenne verticali, ma non certo quella la pica proprio, non certo quella la pica proprio. Ma no, io ho un vecchio catalogo della rivista Cipo Elettronica dove ci sono antenne tedesche, la K3, non so se le conosci, ma hanno cifre esagerate, sono antenne professionali, le usano in apparecchi professionali, non so, non le ho mai viste davvero, ma mi immagino, io le conosco le K3, quelle che usano sulle stazioni radio FM, che sono un altro pianeta, le usa la RAI per i trasmettitori, cioè sono apparecchiature super professionali. Però costano un'esagerazione, le fanno anche per la 27, ho visto il catalogo, un vecchio catalogo, ma ci hanno presi fuori dalla norma. A parte questo, sono aumentato molto funzionato, e poi siccome sono proprio artigianali, come si suol dire, si fanno pagare, ma se uno ha uno spazio, ragione, si fa un bel dipolo, io ho problemi di spazio, ho un bel dipolo, c'è come ascoltare un dipolo, quindi una bellezza, non senti neanche quel REM, altro che se ti metti le cuffie vai fai un SQL che è troppo bello. Guardati quel catalogo della LEM, e c'è un dipolo che ti fa 4 bande, non so se l'hai visto, e poi ce n'è uno che fa 11 metri e 45 metri, controlla. Sì, io questo della LEM, perché c'è il catalogo, perché l'avevo comprato dalla LEM, il dipolo l'avevo preso, quello che avevo preso la licenza di SVL, mi serviva un dipolo per ascoltare, perché ero soddisfatto, solo che ci avevano rotto, c'avevo il terrazzo e potevo montarlo. E qua invece, fino adesso, mi hanno messo il vetro, che non vogliamo avere altre antenne, oltre che non anche le due verticali e basta. Ma tu perché non sei in casa tua indipendente, Salvatore? Sì, capa, sono indipendente, ma il problema è che mia moglie mi ha detto basta, non mettiti giù quelle due e non le voglio vedere altre, vabbè, adesso bisogna resistere, roba. No, pensavo il vicinato, ti avessi detto qualcuno che ci aveva una casa per dire di familiare di quelle dove ci avete interato in comune. Tu sei in casa tua, diciamo? Sì, sono in casa mia, sono a Storo, sono a Villetta, non dico isolata, ma isolata nel senso non c'è nessuno in condominio. Ma il vicinato l'avrei potuto mandare a fanculo, ma mia moglie, non mi chiedo di no. Già un grido, sì, lo so c'ha fossi. Ci vado piano, ho montato te, adesso vediamo. Natalio viene per farmi una, anche perché l'estate poi tu ricevi tu e ce l'hai, Sì, sono un portatile però io. Ho preso su eBay un affarone, ho fatto 69 euro col trasporto, mi è venuto un nuovo fiammante dentro una scatola, addirittura non mi ha fatto pagare neanche il trasporto questo ragazzo che me l'ha mandato, prima doveva 12 euro, poi mi è arrivato e non me ne ha messo in conto, ho fatto la Jesu, però è marcato AOR, non so se lo conosci, fa da 500 kg e fa 1300 MHz. Sì, li conosco, AOR, ok, sì che li conosco, aspetta, guarda, adesso l'estate c'è troppo la libertà, ti piace la cuffia, guarda, c'è la tua sala, nel senso la coppa di aperto si apre, c'è da divertirsi, come paziente, ecco, con la buona antenna in certe in fasi orari fai ascolto sia di tutte le frequenze, ma anche altri tipi di ascolti puoi fare, guarda, c'è la notizia del fatto. No, ho comprato un libro, ce l'avevo già da un po' di anni, un libro CB radioamatori, ci sono le indicazioni, tutte le spiegazioni, come farlo, come prendere poi per fare le QSL, ci sono tutte le frequenze di tutte le stazioni marittime, cioè, tutte le cose che si possono ascoltare, diciamo ci sono un sacco di cose, ma l'ho preso, me lo sto leggendo piano piano, non avevo mai avuto modo di leggerlo, adesso me lo sto leggendo perché dal momento che sto utilizzando il baracchino, lì ci sono anche il ricevitore, ci sono delle frequenze che magari prima non me ne fruttiva nulla perché non avevo l'attrezzatura, adesso però mi sto divertendo e ho visto che c'è da ascoltare, c'è tanto. Se tu, non so, se prendi quella rivista Radio Fitti. Non dire mai che cosa c'hai. Non c'è, su Radio Fitti ci sono un paio di pagine tutte offerte per le radiofrequenze, quelle degli SVL. E lì ogni mese ci sono frequenze, dico, ascolta, sono le stazioni argentine, le stazioni spagnole, le stazioni. E ci sono tutte le frequenze, so, se hai questa passione, guarda, c'è da vedere, ti dà anche gli orari dove si ascolta meglio, dove si offre, capito? E poi ci sono quelle tropicali, frequenze tropicali, le chiamano, te le ascolti, per dire a un certo orario ti puoi ascoltare il Sud America, a un altro orario ti ascolti l'Asia, non so due cosa. Comunque ho sentito qualcuno parlare sotto, chi era? Non dire mai cosa c'hai. Chi sei, Claudio? No. Sì. Non riesco a capire chi sei entrato, buco. Lo senti tu, Salvatore? No, negativo, se no l'avrei fatto entrare io. No, qua c'è tutto, ascoltare informati, c'è una rubrica molto molto carina, ci sono alcune cose belline, ci sono indicazioni delle varie stazioni, molto belline, ma non c'è niente che quella rivista, No, guarda, ne avevo qualcuna così, ma me l'hanno dato regalato. Io leggo altri generi di cose, adesso piano piano mi sto appassionando alla radio, diciamo, al CB, perché sono entrato, te l'ho detto, da poco, da dicembre, ci sono con questo apparato, piano piano mi sto appassionando, già ne compravo qualcuna, perché ero appassionato di altre cose, di satelliti, prima, e utilizzavo altri tipi di cose, di frequenze, diciamo. E infatti di lì sono abbastanza aggiornato. Adesso piano piano mi sto facendo prendere la mano anche dalla radio vera e propria, diciamo, per cui troverò il momento di comprarne qualcuna. E un paio c'ho con la CQ elettronica e un altro, forse Radio Kit si chiama, una cosa del genere. No, ma comunque c'è anche roba sui satelliti, che è una rivista molto molto molto abbastanza interessante, cioè, prende vari campi. Sì, ma qui siamo piano. No, non ho sentito, dice, proviamo a fare un po' di bianco, sì, vediamo un po' se c'è questo amico, io non ho comunque, ma ero tiri fuori tu, facciamo un attimo di bianco, là. Non dire mai che cosa c'hai. Sento, uno dice, non dire mai che cosa c'hai, però identificati, se vuoi entrare. Non ti preoccupare, non dire mai cosa c'hai. No, vabbè, ok. Ripeti Salvatore. No, non sento, non sono in questi, non le sta tirando fuori, invece dalle parti sue non sono proprio più. Vabbè, lasciamo perdere. Continuo a riprendere l'argomento. Abbiamo sono mille argomenti, abbiamo fatto possiamo variare, certo, importante chiacchierare dopo. Poi io, facciamo il combatto come il direttore sportivo Lamantini, ho trovato, già avete capito chi ho, no? Non so chi sia adesso, sapevo chi era prima, non so se l'hanno cambiato, perché ogni tanto ci sono delle modifiche, ma chi sta dicendo? Dimmi il nome senza il cognome. Luigi. Cappa, sì. E cosa ti ha detto? Si stanno preparando per il big match? Cappa, sì, però quello dei gradoni non li hanno montati, li hanno promessi, ma non li montano, ha detto che non fa l'intento. No, stanno già pensando che se tutto va bene, tanto di rinfrescare la squadra, di allestirla, di cavalcare già per il prossimo anno, soprattutto di svegliarla. Lo so, purtroppo c'hanno gente, io li chiamo mercenari, dai, loro dovrebbero puntare più sul settore giovanile, io gli ho detto già, non ho capito perché non hanno fatto la riunione su quest'anno. Vabbè, perché? Perché la riunione ha dei problemi, i costi, è come una squadra di seconda categoria, agli stessi costi, e secondo devi farla, minimo devi fare una riunione regionale per avvicinare i ragazzi, perché a quell'età un ragazzo vuole, se è bravo perlomeno, tra virgolette, vuole avere una vetrina, perché si sa che state da lì, o falsate qualità oppure rimane nominato, eliminato. Salvato, non sono molto d'accordo. Io ho una squadra junior di provinciale, non siamo andati abbastanza bene per diversi motivi, sulla carta dovevamo tracciare a tutti, vi posso fare solo un confronto, noi in precampionato abbiamo giocato con squadre che stanno vincendo il campionato senza far nome l'Udinese, adesso ha mollato un pochettino perché i ragazzi si erano portati in prima squadra e l'allenatore della prima squadra ha preso quelli migliori della junior e per quello hanno perso qualche partita, però erano fino a un paio di giornate fa sempre primi imbattuti. Con lui hanno fatto 2-2 e ti posso dire non avevo la migliore formazione e hanno pareggiato proprio all'ultimo minuto perché li abbiamo mollato e fatto giocare a tutti. Non hanno detto proprio niente, per cui il livello non c'è molta differenza. Mentre nel girone opposto al nostro c'è una squadra, il Sorso, e ti posso dire quella sì che è una squadra e sta giocando in un campionato provinciale. No, sono tutte balle questo discorso del coso. Così la stessa famiglia ne abbiamo fatto 5. Abbiamo giocato con la Sassari lo stesso. Non c'entra niente il discorso provinciale o regionale, secondo me. Ma sai cos'è, non perché? Cioè, io mi sbaglio per carità, dico, a livello di immagine, di solito si tendeva sempre a fare il regionale, pur avendo un sacrificio maggiore, solo perché lì un ragazzo lo metti più in evidenza, perché sì, so che il livello, poi se parliamo di livello di difficoltà è un'altra cosa, forse è più difficile il livello di provinciale, perché magari trovi squadre più agguerrite, meno tecniche, ecco, diciamo. Ma è la stessa cosa, molte volte, che ci sono seconde categorie che sono più facili da terza categoria, dipende che giro è, dipende che squadre ci trovi. Io parlo come immagine, sono un ragazzo, però male in un regionale si mette più, lo puoi mettere più in risalto, lo puoi valorizzare di più e puoi farlo, lo possono notare più altre squadre, ecco, solo in quello, non sulla difficoltà. Allora io ti dico una cosa, questo discorso che stai facendo tu poteva essere valido 6-7 anni fa, prima che fosse il discorso obbligatorio di far giocare i fuoriquota nei campionati dalla prima categoria in su. Adesso, da quando è successo questo discorso qua, di far giocare i fuoriquota, tutti i migliori giocatori si riportano in prima squadra e mettono qualche giocatore così degli allievi. Io ti posso dire che il livello è calato tantissimo negli ultimi 5 anni. E poi c'è da dire una cosa, un campionato regionale, uno è convinto regionale perché giochi con squadre di tempi e cose del genere. Il girone di Sassari, la squadra più lontana è Chiesi, poi c'è Castelsardo, nel girone nostro noi andiamo a Budusò, a Mona, a Pattada, nell'altro girone vanno alla Maddalena, vanno a Santa Teresa, ti posso dire è molto più impegnativo il girone provinciale che quello regionale a livello di trasferte. Poi a livello di qualità di gioco, adesso come adesso no, non c'è differenza. Sulla qualità del gioco anch'io sono precisato, ho detto no, non si fa una qualità, io magari puntavo più sull'immagine, ecco, su mettersi in risalto a livello regionale rispetto a quello provinciale, no, che poi magari si è cambiato, per carità, io ripeto, sono già fuori una stagione, due stagioni, quindi magari sono già cambiato, e poi ci sia stato il problema per molte società di questo nuovo regolamento e si sono trovate schiacciate, fra virgolette, so che uno dei problemi di crisi della classe sia dovuto a questo, la mancanza di unione è valida. La conferma quello lì, finalmente d'accordo. Purtroppo la gente, secondo me le piccole società devono investire più sul settore giovanile e portare soprattutto una squadra come la Lanteri che ha un vivaio eccezionale, per puntare più sui giovani, portarseli avanti e poi piano piano con quelli inserire qualche anziano, diciamo, di esperienza, così la stessa famiglia ha un potenziale di giovani impressionante, però andare a ficcare giocatori invece a far coso, punta invece sui giovani, ti fai una squadra piano piano e poi inserisci qualche anziano. Invece loro vogliono vincere subito tutti quanti. Sì, ma poi lo pagano, come se dicevamo la chat, lo pagano. Oggi per le giovanile, per tali motivi è troppo importante. È difficile a te per le giovanile perché è un impegno ancora più gravoso che avere solo una squadra di diciamo, di grande, tra virgolette, però così paga. Anzi, già, prima si tendeva, io quando sono arrivato mi dicevano, no, la riunione è per carità, tra gli allievi, basta, non conviene perché costa troppo, è impegnativo tenerla. Adesso non è meno male che non è più così, perché penso c'è quasi l'obbligo di averla, anzi c'è l'obbligo, mi sembra arrivato alla prima categoria, deve averla, ma forse deve averla anche per rimpiazzare il portato in panchina. Certo, voi ne avete squadre giovanili, no? Guarda, sinceramente adesso siamo calati un pochettino, noi siamo pieni per dire di un settore, perché sono ad annata, l'anno scorso avevamo una marea di esordienti, quest'anno esordienti ne abbiamo pochi e abbiamo un'invasione di giovanissimi, pochi pulcini e pochi micro. Purtroppo c'è un sacco di concorrenza nella zona degli spunti, poi abbiamo la riunione, quest'anno non abbiamo fatto gli allievi per dire, l'anno prossimo per dire abbiamo una marea di allievi, così ci sono troppe squadre, per dire noi 10 anni fa avevamo il monopolio, no, vabbè, di più di 10 anni, 15 anni fa avevamo il monopolio agli spunti, avevamo una marea di bambini e i ragazzi non sapevano dove mettere, purtroppo adesso ci sono troppe squadre e siamo un po' penalizzati, fortunatamente noi ci salviamo che abbiamo i campi, al contrario di molte società che devono arrangiarsi. Vabbè, ma invece c'è una tradizione, insomma, per quanto riguarda quel settore, a parte che organizzate quel torneo, che è chiaro che siamo per tutto il settore, noi siete proprio il vostro stati. A proposito, ma quello, il primo campo che c'era, quello di, come si chiama, Iacomini mi sembra, sì, ma quello è chiuso, non lo stavo più usando, quello che c'è, non per il pubblico, quello che c'è a Ottava, ma quello è tutto chiuso adesso. Guarda, per quanto mi hanno detto a me, stanno facendo dei tornei amatoriali tipo Endas, ICS, tornei così, però a livello di squadre dilettantistiche, fisici, che su io non lo utilizza nessuno, forse per fare allenamento a qualche società, fino all'anno scorso ce l'aveva una squadra, mi sembra, o 2 anni fa ce l'aveva, a Torre 2000, andavano a allenarsi di lì con i bambini, però che su io quest'anno non c'è nessuno, perché la terza dell'ottava sta giocando nel campo nuovo. Sì, no, non stava a giocare al campo nuovo, ma c'era un'altra squadra che giocava, la squadra di seconda categoria che giocava lì, adesso non mi sfugge. Aspetta, come si chiama? Sporting Sassari, non Sporting Sassari, Raffan Napoli, sì, forse si chiama Sporting Sassari, un nome così ci aveva. Perché prima che la Fulgo andasse a un'altra parte, non è che giocava lì, no magari. No, aspetta, si chiama Sporting 90, non Sporting Sassari, Sporting 90, la squadra, no, Fulgo l'ha sempre giocato in quel campo lì, giocava nel campo di, come si chiama, di Badelonga. È prima che giocasse a Badelonga, perché Badelonga era molto caro messo a posto, vedi? Guarda, se mi dici dove giocava nel periodo che era in corso non me lo ricordo, però non sicuramente a Ottava, forse la Fulgo, non vorrei sbagliare, ma forse giocava al campo della Sassari. Hai ragione, sì, perché un anno abbiamo giocato anche in zona quarantini, il primo anno che abbiamo fatto la seconda, abbiamo giocato lì, a Sassari, poi siamo andati via perché c'era la storia, un casino, come hai vieni, che siamo andati da dai campi quelli a bancare di Marcesi, dove eravamo a Marcesi, e poi è stato assegnato al comune quel campo lì, sotto scritto a Sassari. Ma è un sacrificio, perché io solo capisce cosa vuol dire. E già lo so, non lo direi a me, già lo so io, perché io c'è tutta l'organizzazione di quel torneo che stai dicendo tu, dei bambini, micro cucina esordienti, mi occupo di tutto io, l'organizzazione, la logistica ce l'ho sotto mano io e sono da solo, e vedrai cosa significa poi tutta la premiazione, organizzare tutto eccetera eccetera, più con la squadra Union, fortunatamente abbiamo finito, così me ne scende da mezzo, anche se continuiamo a allenarci una volta alla settimana, e poi ufficialmente io sono allenatore ufficiale della prima squadra. Ma il patentino c'hai anche, no? Per forza, io ho letto che c'è un nuovo il corso di quello di base, mi sembra. Danilo, mio fratello, ha fatto quello, il precorso, diciamo, la squadra la tiene lui, ufficialmente sono io, però la squadra la tiene lui, se la cura lui, però la domenica devo scendere in campo anche io, per cui sono impegnato il sabato e la domenica. Auguri allora, a parte gli impegni in famiglia, ui. E male che con aprile abbiamo finito, così almeno un po' di stress diminuisce. Mia moglie mi ha ammazzato, mi ha detto domenica c'è un giorno libero, mi ha detto Manuela, a mia moglie ha detto finalmente domenica anche previsto bel tempo, ho detto finalmente ci abbiamo, allora perché il torneo è sospeso, quello dei bambini, che non giocano domenica, è tutto anticipato al sabato, ho detto domenica mattina ce l'abbiamo tutta libera, adesso speriamo faccia bella giornata, perché la sera alle 4 siamo contro la Fugo. Così, no, è quello lì impegna, la domenica non esiste, poi quando c'è la trasferta, quando fai le trasferte, non riesce più, riesce a trattare, mi ricordo che siamo andati alla Maddalena, c'eravamo alla Maddalena, c'eravamo a Palau, per carità, guarda, entrambi direttamente con le case, perché diciamo, è morto, morto, non parliamo quando fa sul campionato di calcio a 5 e di FDC. E ci hanno messo nel girone compreso fra Puglia e una parte di Mauzanino, Nuoro e una parte di Oristano, non ne parliamo, ancora più massacrante roba. E amici, chi lo dici? Io ci sono da piccolino, già conosco la società, da bambino, mio padre già lo sa chi è, ci sono da bambino e me ne ho passate tutte, da quando... Diciamo, da quando avevo 6 anni si portava appresso la Maddalena, lui ha giocato anche in eccellenza. Diciamo, io non ero nato quando ero in eccellenza, ma in prima categoria, in promozione, già ero nato, si andava a giocare alla Maddalena. Non come adesso, andare alla Maddalena 30 anni fa, 20 anni, 25 anni fa, non è come adesso. Quindi vabbè, però mai si è abituato, quindi sei... Ma ti manca, il giorno che non c'è poi ti manca, ormai fa parte del DNA tuo, quello del calcio, è vero, è vero. Allora, l'anno scorso, che è stato l'ultimo anno che ho seguito la scuola di calcio 5, abbiamo fatto una trasferta a Luceri e una... Allora, Luceri e l'altra è un triangolo, Luceri è l'altro paese che c'è lì vicino, è lo stesso al confine tra l'Ungherese e il Cagliaristan. Allora, abbiamo giocato alle 10 di sera. Allora, per non fare troppo la macchina abbiamo applicato il pullman dalla Nikos, a parte i costi siamo arrivati distrutti. Tu di che scuola stai parlando? Io l'anno scorso c'avevo l'ultima mia mania, perché sai, tanto uno sulla cerca, seguivo una squadra di calcio a 5, quando ho finito con l'Antieri l'ultimo anno, poi mi sono seguito una squadra di calcio a 5 e qui facevo il campionato FGC. La CF, come si chiama? Come lì stai dicendo? No, io la mia si chiamava Real Sassari. No, la conosco, Real Sassari la conosco perché per i tornei dei ragazzini facciamo, però a livello del calcetto, no, di calcio a 5 non sapevo faccio l'attività. Diciamo che quell'altro Real Sassari non si chiama Real Sassari, si chiama Real Sassari 2004, perché abbiamo detto noi tramite il FGC che non si possono chiamare Real Sassari perché siamo registrati i primi noi. Quindi, però tante lo fanno solo per noi giovanili. Noi abbiamo scritto questa squadra per fare calcio a 3, facciamo solo calcio a 5. Abbiamo fatto 2 stagioni, la prima la seguiva mio figlio, la seconda l'ho seguita un po' io quando ho mollato Avantieri. Niente, però non abbiamo continuato perché non c'è la cultura per fare calcio a 5, sono costi altissimi e ritorni in vero, no, beh. Gianluca, poi andare a giocare alle 10, come si fa? Perché un amico mio si giocava alle 10 a giocare a Cagliari, ha iniziato la partita alle 10, andando nel dorme. Quello è, c'è un disordine, la FGC è appunto di incassare le iscrizioni, si fa, allora, chiamati, adesso hanno migliorato già, noi abbiamo giocato, l'anno prima abbiamo giocato in campi di calcio a Moro, non so se lo conosci, campo di calcio a 11, tracciato così con un pezzo di gesso, messe 2 porte così di quelle fortisce, giocato alle, mi sembra, alle 9 di sera, un freddo, mezzo nevicando, tu lo sai che i cambi di calcio a 5 non sono i cambi di calcio a 11, i ragazzi entrano e escono, quindi sudati in panchina, era un'avventura. La FGC fu di incassare i soldi delle iscrizioni, non gliene frega niente, ti fa giocare anche se gli chiedi di giocare in Terza Italia, guarda. Fagiano vuol dire a me, Mono, nel girone nostro era il Mono, l'hanno giocato quest'anno, fortunatamente il freddo non ce n'era, l'anno scorso era la neve, era il campo coperto di neve, l'hanno dovuto spalare, poi la neve si è sciolta, era un coso di fango, saremmo stati io penso almeno 3, meno 4, era un freddo da muri, si giocava alle 4 e mezza. In Pianemero siamo andati il 23 o il 12 di febbraio, era un freddo, l'anno che aveva fatto la neve a Sassari, e l'anno scorso il periodo, ma un freddo da morire. Allora già lei capito di cosa stiamo parlando, una posizione messo in quella specie di fosso, ma quasi freddo, ma meno male che in casa 11 entrano in 11, poi quello fa il cambio, quello se ne va a fare luce, ma in casa 5 c'è il movimento, entra, esce, pensa tu, quello che usciva è sudato, si prende la panchina, era un dolore. No, non c'è la cultura, non c'è ancora. E poi calcio 5 è ancora lo svecchiamento dei vecchi giocatori di calcio 11, non c'è ancora proprio la cultura, ecco, per fare solo calcio 5. Sì, confermo, no, io le ho visto le partite, ho visto squadre di Serie C giocare, si vanta, noi giochiamo in Serie C, ma una squadra di seconda categoria rispetto a rivale dei Barba Cappelli. Sì, non c'è, perché già non ci sono gli allenatori per fare calcio 5, perché è completamente diverso. Forse uno dei pochi che ho visto qua, nella zona rossa, allenando proprio quella struttura del calcio 5, era quello che ci aveva, proprio quella che hai nominato tu, la CF, quel tipo romano, che poi è stato c'è stata quella zuffa, l'ha scritto sul giornale, che sembra abbiamo squalificato 5 anni davanti squalifica. Diciamo che forse è l'unico che, avendo giocato in Serie in A1, aveva provato a fare un po' di cultura, un po' di metodologia, di allenamento e quindi lavorare sugli schemi, queste cose qua. Ma gli altri perlomeno, forse un po' l'Ignos che ha già una tradizione, forse le squadre del Cagliaritano, ecco, qualcuna dell'Uristanese. Per il resto sono, come stai dicendo tu, gente che così giocava un po' a pallone lì, cambia genere, fallito nel fare calcio a 11 e vai a selezionare nel calcio a 5. Confermo al 100%, qua non c'è altro, e con la squadra che hai detto tu, quella che ho nominato io, c'era quel romano che ha giocato in Serie A, un po' di esperienza, qualche schema stava portando, ma se non c'è giocatori adatti, mentre in realtà non c'è la cultura, è tutta un'altra musica, c'è una squadra che gioca in Serie A, diciamo è tutto un altro tipo di gioco. A parte poi, diciamo francamente, non piace il calcio a 5, perlomeno, non piace perché non, se fai un parole col calcio a 11 non niente, proprio, a me proprio non piace, lo facevo per accontentare i miei figli che volevano lì, ma c'è tannuglia alla fine di Roma. No, guarda, io ho visto le finali dei campionati mondiali, Brasile, Portogallo, fare così, a quel livello è bello che vedi il spettacolo, ma a livello rigoso, sì, anche la Serie A non è che vedi niente, cioè non è spettacolare, vedete, perché è monotono, fanno girare la palla, tatta, palla a terra, schemi, inserimenti e cose del genere, però non c'è la spettacolarità del dribbling rigoso, raramente ne vedi dribbling. Sì, giusto, da quelli belli, Brasile, Spagna, ma quelli sono giocolieri, quelli già sono su un altro pianeta, è vero, ma è vero proprio che lui ha veramente, è una lunga morte, non vedo entrata, vabbè che stanno un po' cambiando anche in quello, non stanno un po' cercando ad adeguare, ma è la palla a mano giocata con i piedi, in poche parole, perché magari la palla a mano a certi momenti può essere anche spettacolare, scambi veloci eccetera eccetera, lì stanno mezz'ora girando la palla in verticale, cioè in orizzontale, non è neanche in verticale, raramente passaggio verticale, vedi, sempre in orizzontale, fanno girare da una parte all'altra, spostamenti, sono schemi, vedi, e basta, tipo il basket, almeno il basket c'è più velocità, e lì li vedi fermi, non vedi quasi mai il contropiede eccetera eccetera. Diciamo che è fotografato tutto quello che è, ma quello che ti dico. Ok, Robert, che ho mai fatto in quel reti che sto già andando in Cecilia, perché domani non mi aspetta la giornata, ma anche a te penso che ti aspetti, a tutti e due si aspetta una giornata di lavoro, e domani forse giovedì, ma che si stava avviando verso il fine settimana, meno male. Ok, che ho mai fatto in quel reti, Robert, allora ci sentiamo domani, e grazie alla compagnia, grazie alla chiacchierata. Ci sentiamo magari domani. Poi per ripetere questi piani io me li porto appresso, me li porto in officina, ma è la prima occasione, ci troviamo così te li faccio. Ok Robert, io ti saluto. saluto, ti auguro buonanotte e buon riposo e buona ripresa per domani per lavoro. Ok, vai per i saluti e quelle ti permette. Ciao, Salvatore, ricambio al 100% anche a te i saluti, buon recupero e buon tutto per domani. Ciao, ciao, alla prossima. Ciao, ciao. Come sto scendo?